Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, benvenuti a questo nostro quarto episodio, un episodio un po' particolare che si basa su un tema che abbiamo deciso insomma tempo fa, ne abbiamo già parlato, l'avevamo annunciato e volevamo semplicemente avere poi le persone giuste con cui affrontare questa tematica, perché è un po' più complicata, un po' più sul ragionamento, un po' come siamo abituati a fare in questo nostro scarcitrato programma. Diamo un attimino i nostri riferimenti, quindi www.dietrologiavideoludica.it, che presto cambierà di proprietà per motivi legali, poi la spieghiamo questa cosa. Ovviamente dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica. Stefano, il Twitter che non... Il Twitter è sempre Dietrologia Videoludo. Ecco, tu lo sai, io ho delle difficoltà con questa cosa di Twitter, non me la ricordo. Siamo in una formazione leggermente ridotta, ma una formazione speciale questa sera, perché ovviamente con me c'è il classico Stefano Biggio. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Ovviamente non puoi mancare, Stefano, insomma, anche perché tu hai un compito importantissimo, soprattutto fra 5 secondi. E abbiamo Marco Gualdi, il distruggitore, ovviamente da Archeologia Videoludica. Ciao Marco. Saluto tutti quanti, saluto anche al classico Stefano. Ma chi ti ha mai dichiarato che ti ha chiamato classico a te, Stefano? Chi mai l'ha fatto? Sì, ma dillo in italiano però quando parli. Sì, sì, sì. Chi ha mai avuto il coraggio di definirti classico? Dimmi. Classico, sei un classico. Sono un classico. Poi adesso è un classico anche straniero, quindi... Questa sera ci è mancato, perlomeno sta mancando. È venuto a mancare. All'affetto di noi tutti. All'affetto dei cari, Luigi Marrone, che è già la seconda volta ci fa questo scherzetto. Anzi, è la prima volta e mezza, diciamo così, perché l'altra volta non è stata proprio. Ma secondo me fa al contrario. È mancato a metà. Esatto, adesso. Lui c'ha queste cose che appare. Però abbiamo una persona che io ho conosciuto diverso tempo fa, con un'intervista su Di Tutto un Podcast. Poi abbiamo ribadito, ovviamente, questa nostra conoscenza sempre per podcast, che è una persona che io ammiro tantissimo, lo so, e che spero un giorno di incontrare e farci quella famosa cenetta di pesce che avevamo detto, Pierpaolo Greco, multiplayer.it. Ciao Pierpaolo. Ciao, buonasera a tutti. Saluti, non ci siamo conosciuti, niente pesce però. Niente pesce. Neanche tu bastoncini proprio. Niente, che te mangi? Niente, io mi guardo mentre parlate, più di quello. Un po' troppo celebrativa. Ma no, noi quello che diciamo, tu lo sai che lo pensiamo seriamente, soprattutto io. Poi gli altri quello che pensano non lo so, perché non me ne può fregare di meno. Va bene, entriamo nel vivo della trasmissione. Ovviamente per entrare nel tema vero di Dietrologia Videoludica, quindi nel tema vero di questo episodio, come vedete questa volta stiamo andando veloce, niente news, niente grandi perdite di tempo, entriamo direttamente nel vivo e c'è la tradizione di Archeologia Videoludica, che è quella che vuole Stefano, che legge tranquillamente con la sua voce insomma bella, calda e impostata il tema della puntata, e alla fine noi gli daremo un voto. Quindi Pierpaolo, preparate, perché vai, Stefano, mi raccomando, la parte che devi farla in tedesco lasciala stare, continua a farlo in italiano, vai tranquillo in italiano. Uno dei più particolari temi di discussione in merito ai videogiochi o alle polemiche che si scatenano è relativo alle fasce d'età più adatte per essere usufruiti. Violenza spesso gratuita, sesso spesso decontestualizzato e disperati tentativi di rendere un medium nuovo come il videogioco un'opera matura. In cosa il videogioco è veramente diverso dalle altre forme di espressione, tanto da dover spesso essere attaccato o difeso a priori? Cerchiamo di distinguere i differenti settori dell'intrattenimento, il modo con cui essi sono percepiti e il pubblico per i quali in realtà sono stati concepiti, per capire in che modo le classificazioni possono essere... per capire in che modo le classificazioni possano o meno difendere alcune fasce protette. Rapporto venditori e videogiochi vietati con il pubblico più giovanile e rapporto genitori e figli. Quanto il problema è causato da inscienza e desiderio di vendita e quanto invece da scarsa cultura del mezzo o irresponsabilità delle famiglie. In che modo si possono proteggere le classificazioni? Sono poi queste classificazioni uguali in tutto il mondo? Hanno veramente senso? Se i videogiochi violenti spesso sono soggetti a generalizzazioni, è altresì vero che la controdifesa è altrettanto semplicistica e prioristica? Guarda, perché, ma noi li scriviamo apposta. Quante domande? Stefano, se avessi capito ciò che hai letto, cosa potresti dire? Cosa ci potresti dire? Esatto. Va bene, io però questa volta ti devo dire la verità. Secondo me per la buona prima metà sei andato bene. Sei andato proprio bene, questa volta ti do un 7. Guarda, potevo andare peggio. Marco? Guarda, io se non avessi capito che tu sei emozionato perché c'è Greco, mi avrei dato un 4,5. Però visto che ho capito che ti sei emozionato, ti do un 7 pure io. Ok. Pierpaolo, tu quanto gli diamo? Pierpaolo, io a questo punto, siccome gli creo emozione, gli do 10, ovviamente. Dai. Sono un po' anche questa settimana l'hai sfangata, dai. Va bene, Pierpaolo, è un temaccio. Lo consideriamo un temaccio. Oddio, in realtà così come l'abbiamo presentato può sembrare che noi abbiamo un approccio un po' conservatore, un po' conservatoristico, diciamo così, ma in realtà non è così. Noi partiamo da quello che è il pensiero negativo per poter poi poter approfondire un po' la discussione e vedere che cosa ne esce fuori. Quindi Stefano, partiamo subito, va? Bella domanda. Il primo punto riguarda praticamente il fatto che all'inizio non sono iniziate queste polemiche con i videogiochi, ma tramite altri medium. Quindi cerchiamo un po' di fare di un paragone, cercare di capire cosa può essere associato in questo caso alle polemiche dei videogiochi, alle crociate contro i videogiochi e così via. Quindi una cosa del passato, la prima cosa che viene in mente secondo me sono i film, il classico paragone più vicino, più semplice da fare, quindi classiche cose, i film vietati, i film bannati, diciamo così, in varie nazioni. Mi ricordo ad esempio il caso clamoroso del film coi cannibali, Cannibal Holocaust mi pare che fosse. Ma c'era anche una ragione, sì, diciamo no, ma che era un film che magari visto adesso risulta abbastanza stupido, ma a suo tempo aveva una serie di scene, una serie di cose, di tematiche che hanno costretto tutti a hanno costretto, meglio, i giudici, chi si occupava della distribuzione, di vietare la vendita e la distribuzione del film in tantissime nazioni. Penso che tuttora in certi posti sia vietato, adesso non sono sicuro. Quindi secondo me direi che insomma, come medium di grande accesso, questo ovviamente escludendo le cose come la pornografia adesso, perché lì si parla di un'altra, su un altro paio di maniche. Sì, ecco. Non entriamo proprio nello specifico, insomma, di quello che poi è ovviamente classificato come cosa vietata o roba del genere. Sì, però, qui quello, ma io facevo già una riflessione proprio al volo, poi sentiamo Pierpaolo, poi andiamo a rotazione con Marco. Sì, sì, sì. Cioè, secondo me il primo medium che ha un po' subito una sorta di ostracismo reale sono stati i cartoni animati, ossia i cartoni animati giapponesi. Perché medium come il videogioco o come i cartoni animati, posso specificare fammi una cosa. Il pensiero, perché sennò poi dopo è medium come i cartoni animati o i videogiochi spesso e volentieri tendono ad essere in maniera molto semplificativa categorizzati come questioni relative ai bambini. Cioè, nel senso, noi l'abbiamo visto anche quando eravamo ragazzini, cioè nel senso ci facevano vedere magari determinati cartoni animati che avevano magari allusioni, ammiccamenti o alcune ambiguità che erano chiaramente e palesemente magari più dirette a un pubblico adulto, però siccome che erano fatte e disegnate, quindi praticamente per noi in Italia, secondo la visione molto semplicistica e classista per certi versi che abbiamo avuto in Italia, insomma quello era qualcosa per i bambini. La stessa cosa vale per i videogiochi, no? Probabilmente il videogioco viene visto come un gioco, appunto, cioè nel senso è un po' la definizione stessa, quindi il gioco, chi è che gioca? Giocano i ragazzini, quindi qualsiasi cosa che rientra in questa tipo tipo di categorizzazione spesso e volentieri poi subisce la critica da parte di chi dice lì c'è troppo sesso, lì c'è troppa violenza, perché non perché ci sia realmente troppo sesso o troppa violenza, ma perché è dedicata appunto a un pubblico che secondo diciamo la generalizzazione che è nostrana, diciamo così, è dedicato ai ragazzini. Non so che cosa ne pensate voi. Sentiamo magari Pierpaolo, poi Marco e poi Stefano. Allora, io non so se mi sentite, spero di sì. Sì, perfettamente. Perfettamente. Perfetto. Io purtroppo a un certo punto non ti ho più sentito, ti ho sentito mentre facevi l'apertura e ti ho sentito adesso mentre chiacchieravi della questione dei cartoni animati. Mi ricollego un attimo alla domanda che tu facevi, inizialmente dicevi che potevi avere una visione troppo, diciamo, conservatrice. Secondo me, se proprio devo fare fra mille virgolette una critica alla domanda iniziale, alla valutazione iniziale, è la necessità di voler confrontare il videogioco con gli altri media o comunque di metterlo in rapporto agli altri media, diciamo degenerando in dove è meglio, dove è peggio, perché è arrivata a questa situazione e così via. Secondo me là c'è un po' un problema, se non nella semplice questione che è il più nuovo, e come la storia ci insegna, il più nuovo è quello che viene sempre più bacchettato, perché è più semplice, è un momento di rottura, è un momento in cui è più facile trovare chi è contro il medium stesso, e quindi da questo punto di vista il videogioco adesso arriva un po' sfigato, possiamo dire fra virgolette. Questo per dirla proprio nel modo più generico e più superficiale possibile. Tipo l'alunno del primo anno che viene bastonato da quelli del quinto. Sì, esatto, cioè comunque io pure ricordo perfettamente la questione dei cartoni animati, anche se tu hai detto benissimo, e secondo me sfuggivano moltissimo al controllo a tempi in cui io anche ero ragazzino. Non che io abbia 50 anni, ne ho 30, però mi ricordo quando vedevo in primis i Cavalieri dello Zodiaco, ma lo stesso Ken il Guerriero, insomma una serie di cartoni animati, comunque me li vedevo avevo 10-12 anni. Cioè se io pensassi a mio figlio di 10 anni, anche se non ho figli e nulla, penso a mio figlio di 10 anni comunque che si vede quello che gli esplode la testa, gli vengono le bolle, gli esplode la testa, quell'altro che si staccava gli occhi, si ciecava per non vedere la testa della Medusa, un pochino dico sì, ok, non è tanto più di quando mi faccio il partitone a adesso non vado a finire GTA perché magari c'è anche il tema del sesso un po' più viola e più forte, però quando faccio un partitone a qualsiasi Call of Duty, sì, ok, è un po' violenza estrema, molto realistica, però cioè, di fondo rimane lo stesso tipo di violenza che spesso appunto sfocia, diciamo, nell'estremo, comunque sfocia in una violenza molto forte. Ecco, una volta erano i cartoni animati, oggi sono i videogiochi. Secondo me lo stesso valore, dipende molto chi c'è accanto al ragazzino mentre lo sta provando. Io sono molto convinto di questa cosa qui, va benissimo la classificazione, secondo me è molto importante comunque, anche se a 18 anni ti fai vedere il sesso estremo, che ci sia un genitore di fianco. Marco, ok, allora quindi okay, per Paolo, Marco, tu cosa ne pensi riguardo? Sicuramente quello, come diceva Pierpaolo, essendo il videogioco l'ultima arrivata, è quello che sicuramente adesso deve essere compreso da tutti, quindi dovendo essere compreso tutti cominciano a fargli l'esame per vedere dove, secondo quello che è la massa, dove c'è quello, cioè ci sono cose buone e ci sono le cose cattive. Per quanto riguarda ad esempio anche i cartoni animati, insomma la censura è arrivata dopo, per dire, come spesso arriva a ritardo, quando ormai tra virgolette i danni sono già fatti, se poi ci sono danni, perché poi in realtà quando un mezzo non si conosce si butta lì, impasta a tutti, poi dopo qualche anno ci si rende conto che magari non è stata una buona idea fare questo, come i cartoni animati dove c'era gente che veniva tagliata a metà, ragazzi, bambini che venivano trasformati in bombe umane e venivano sequenziati nel mondo, cioè c'è di tutto. No, che poi cioè, realmente il problema era questo, no? Io quando vedevo i cartoni animati da ragazzino me la ponevo io la domanda: ma sono per ragazzini sti cartoni? Cioè, vedete... Io non mi pornivo assolutamente la domanda. No, io sono un ragazzino strano, sono un bambino autistico e me lo chiedo. Cioè, nel senso, voglio dire, a me facevano impressione determinate cose, no? Ecco. Beh, perché certo, ho sempre pensato il fatto che, secondo me, in Italia non si è mai fatta una reale classificazione dei prodotti o delle opere in generale, no, per la del videogioco, perché il problema non lo si conosceva fondamentalmente. Sì, esatto, cioè il problema è che sono stati classificati male, perché un prodotto come Dragon Ball, che è stato concepito e creato per adolescenti, tuttora viene trasmesso all'ora di pranzo, per dire, Però a volte anche censurato ad cazzo, ma sì, dire, ma censurato male, in maniera stupida. Idem, anch'io da piccolo mi guardavo con il guerriero, guardate come sono venuto bene da grande adesso. Infatti, sei un rifugiato politico in Svizzera. Sì. Comunque anche per esempio nei libri possiamo, cioè, ci sono state cose simili. Ricordare i versetti satanici di Rashid. No, ma senza andare poi a fare, io quello che dico è che alla fine il problema è strettamente legato alla classificazione, no? Cioè il videogioco bambini, cartone animato bambini. Perché okay, nascevano così, in questo realtà all'inizio era quello. È il problema di fondo, no? È chiaro che allora se tu il videogioco lo consideri un prodotto per bambini, è chiaro che Mortal Kombat è violenza gratuita. Certo. Cioè, è inevitabile, no? Cioè, nel senso, è la stessa cosa che valeva per Ken il Guerriero. Io vedevo Ken il Guerriero, ma Ken il Guerriero poi alla fine, se vi ricordate, c'era l'Uomo Tigre. L'Uomo Tigre era pure peggio. Sì, cioè, sì. C'era proprio la violenza psicologica, oltretutto. Sì. Cioè, una tristezza. C'erano immonda. Spruzzi di sangue ovunque, proprio. Sì, ma poi c'è, con gli orfani di me, c'erano bambini orfani. Sì, cioè. Era, sì. Era proprio di depressione, proprio veramente violenza psicologica interna. Manca, probabilmente l'Uomo Tigre mancava solo che lo stuprassero ed era a posto. Ma probabilmente è successo, chi può dirlo? Probabilmente esatto. In Italia non l'abbiamo vista la scena, ma in realtà, cioè, ve lo ricordo, io mi ricordo, cioè, per esempio Daidan 3 ha, in maniera estremamente ironica invece, in realtà aveva degli ammiccamenti, no? Molto ambigui, anche a sfondo sessuale, però era ironico, cioè al massimo non la capivi, no? Invece il cartone animato sulla pallavolo, che c'erano queste ragazzine che soffrivano a essere prese a pallonate tutta la puntata. Dici, cioè, nel senso, io se io fossi stato un importatore, è vero che in Italia veramente noi purtroppo abbiamo fatto le cose veramente in una maniera becera, ma già soltanto i tempi, il tempo che ci è voluto per avere una classificazione dei bollini per quello che poteva essere visto o non visto, perché io quando ero ragazzino, ve lo dico, cioè, a 10 anni L'Esorcista in televisione alle 8:30 di sera non mi ha levato nessuno, cioè, capite qual è un po' il problema, no? Quindi io quando sento parlare di violenza gratuita, io riesco a comprendere un po' il senso. Quello non riesco. Comunque, non toccarmi l'esorcista perché mi ha insegnato a vomitare. Quindi, vomito come l'esorcista, quindi. In maniera unidirezionale. Esatto. Comunque, vabbè, dai, questa era un po' la parte un po' di introduzione di quello che in realtà volevamo cercare di capire un po' tutti quanti. Non so se siamo più o meno d'accordo. È che purtroppo il problema non è tanto nel come è fatta l'opera e quindi se c'è della violenza più o meno gratuita, come può essere un film di Tarantino, ad esempio, o ancora peggio. Ma il problema è il fatto che alcune opere potevano essere indirizzate a attivi di pubblico diversi e purtroppo poi alla fine non è stato così, insomma, perché il problema del videogioco è antico, non è un problema di oggi. Ne abbiamo parlato una volta in archeologia videoludica quando c'era quel giochino che dovevi andare con la macchina a schiacciare. Death Race, bravo, adesso non me lo ricordavo, cioè, è da lì, capito? Il videogioco strumento del demonio, Satana, roba del genere, così come è stato per rock and roll, è stato poi per gli anime dopo, insomma. Quindi alla fine io penso ci sia un parallelismo, lo riscontriamo, insomma, un po', no? Beh, ciò che è nuovo, sì, è sempre da conoscere, no? C'è da dire, anzi, che per assurdo, con i videogiochi la classificazione, l'SRB, eccetera, ha permesso un tipo di attenzione maggiore, perché facendo caso, quando uno legge la classificazione si ritrova anche il contenuto del videogioco, cioè sa perché ha quella classificazione. Ad esempio, ci sono dei temi che riguardano la morte e la violenza, c'è del sangue, oppure va tutto bene, però c'è del gioco d'azzardo, c'è la droga, esatto, cioè c'è uno ha modo di sapere perché è stato valutato in quel modo, e poi la cosa è passata anche ai film, se non erro. La classificazione forse non mi ricordo se è così preciso oppure no, però siamo lì, No, nei film non mi sembra che ci siano. No, mi sembra sia solamente il rating dell'età e basta sui film. Mi sembra di sì. Allora mi chiedo perché non fare la stessa cosa anche per i film a questo punto. Poi sì, il problema è vecchio, è storico. Ad esempio, per quanto riguarda Death Race è un videogioco tratto dal film Death Race. No, che aveva no, contrario. No. No, mi sa che c'ha ragione Stefano. No, viene prima il film, viene prima il film e poi il gioco. Ve lo dico perché ho scaricato il film originale. Bravo, bravo. Attenzione a quello che dici, attenzione, è grave. Sono in Svizzera, non potete toccare. Ma poi scusami, ma c'è uno simolo. Ho scaricato il film originale. No, il film del 75. Tra l'altro, ho scaricato il film originale. Mi faceva ridere, ho scaricato originale. No, lui voleva dire quello originale perché in realtà poi ci sono anche dei remake. Sì, c'è il remake quello con Statham, insomma, con quelli del 2000, diciamo. Invece ci ho visto un pezzo, una cosa orribile. Quello moderno o quello vecchio? Vabbè, dai. Quello moderno, ma chiudiamo la parentesi. Ok, comunque. Quindi, insomma, il punto è, adesso, per passare all'altra parte, possiamo dire che sia nei videogiochi che, in questo caso, nel cinema, esistono delle classificazioni che dovrebbero permettere anche al consumatore di orientarsi in una maniera abbastanza precisa. E il problema è... perché non si riesce a far capire che i videogiochi in questo caso possono essere divisi in tante classificazioni, quindi chiaramente un bambino non andrei a regalare un gioco horror o erotico e viceversa andrei avanti così, perché nonostante ci sia una buona divisione continuano ad esserci questi problemi, cioè questo non è molto chiaro sinceramente, perché basterebbe che uno si attenesse a quello che c'è scritto, come per i film appunto, vai lì e sai che cosa stai comprando, cosa stai regalando, cosa stai giocando in questo caso. Perché, oppure in buona sostanza, concludendo, perché sì, come abbiamo detto 50.000 volte in queste puntate di archeologia videoludica, il di dietrologia videoludica, scusa, il videogioco non ha ancora preso una sua dignità come opera, Pierpaolo? Bella domanda che mi spari qui all'ultimo secondo così. Beh, dipende che intendi, perché dici non ha preso ancora una sua dignità di opera, perché secondo te se subentra la censura vuol dire che non sei un'opera? Ma no, perché in realtà quello che dico è che su un film particolarmente violento si può fare una polemica sul gusto del film, ma non perché il film è violento, no? Perché oramai il cinema è accettato come strumento di intrattenimento, tra virgolette, che ha una serie di classificazioni. Il videogioco ancora, secondo me, al di là di noi che giochiamo o di voi che ne scrivete o di chi più o meno insomma ne fa parte o ne usufruisce, non viene ancora identificato come un'opera, come un film ad esempio, che può avere varie classificazioni. Il videogioco è videogioco, non ha ancora la sua reale dignità in quanto tale, e che quindi ovviamente può non subire la polemica, perché ovviamente è un videogioco violento e quindi deve essere per forza una polemica, perché è videogioco. Non so se mi sono spiegato un po', accartocciato la questione, no, ma ti sei spiegato. Il problema è che secondo me non è una cosa semplicissima da analizzare e discutere, nel senso che allora secondo me io un po' ti vengo, diciamo, contro fra virgolette, nel senso che secondo me c'è ormai la consapevolezza che è un'opera commerciale, un'opera di intrattenimento, appunto, come vedi un film, compro un videogioco e stop, fine della questione da quel punto di vista. Sul fatto che diciamo che genera più polemiche sul suo contenuto, diciamo su, è anche difficile dirlo, diciamo sull'accessorio del contenuto, nel senso che il Call of Duty, magari non più che il Call of Duty, il GTA non genera polemiche sul fatto che racconta la vita di un criminale che arriva in America e riesce comunque a seguire il sogno americano, bensì genera polemica sul fatto che si menano le prostitute, si spaccia la droga o può investire la gente, ecco, di solito tantissimo c'è questa cosa che può investire le persone. Il fatto che ci si concentri su quel tipo di polemica probabilmente, cioè, si ricollega sempre alla solita questione, nel senso che ci sono dei momenti, io lo dico in modo molto spicciolo, ma secondo me ci sono dei momenti in cui la cosiddetta, che si studiava, l'agenda dei media in quel momento è scarica, non si sa di che parlare, purtroppo qualcuno accende la miccia dicendo guardate, ci sono, quella puoi prendere la macchina e puoi investire i passanti e gli schizza il cervello per terra, discutiamo di questa cosa. Questa genera il classico tantam di discussione, e questa cosa, diciamo, porta alla luce la polemica, il dibattito ultra sterile sulla violenza all'interno del videogioco, probabilmente semplicemente perché non c'è di meglio di cui parlare in quel periodo. Infatti secondo me non è un caso che una grossa parte delle polemiche diciamo un po' tendono a staccarsi dal periodo natalizio, vengono un po' più nel periodo in cui c'è meno da parlare, poi magari sono alimentate dalle stesse, cioè anche il famoso teoria del complotto sono alimentate dalla stessa industry per generare il parlare, proprio per generare le copertine su media più generalisti rispetto solo agli specializzati, insomma l'importante è che se ne parli, eccetera eccetera eccetera. Secondo me è solamente una questione pura e semplice di maturità. Finché non entrerà proprio nel discorso comunissimo del videogioco, come tutte le altre forme di intrattenimento, io rimango convinto dell'idea che purtroppo rimarrà questa forma di polemica proprio super sterile sulla parte più accessoria del contenuto, e può essere la violenza piuttosto che l'erotismo e così via, dal mio proprio super modestissimo parere. No, sì, Stefano. Io no, allora, secondo me sì, siamo già a un buon punto a livello di consapevolezza. È chiaro che è anche una questione generazionale, come stavamo dicendo all'inizio, essendo un media un po' più nuovo richiede più tempo per essere assorbito da tutte le generazioni. Io forse avrò fatto capire ai miei genitori 3 anni fa che i videogiochi non erano solo giocare e basta, che magari mentre giocavo facevo anche facevo i compiti no, facevo anche un altro tipo di riflessioni di riflessione al di là del media, al di là del gioco, dell'intrattenimento fine a se stesso, ecco. Quindi c'è da dire che secondo me siamo a un buon punto, almeno stiamo iniziando forse a essere a un buon punto, ma non siamo ancora nella totale consapevolezza della cosa. Porto l'esempio in questo caso del caro vecchio Wolfenstein 3D, che è tuttora la versione nazista, è tuttora vietata in Germania, in Austria e qui in Svizzera ad esempio, nonostante sia un gioco che non è che sia proprio uscito l'altro giorno e penso che abbia avuto modo di essere contestualizzato a dovere, ecco. Cioè penso che ci hanno giocato abbastanza qualche decennio fa, insomma. Sì, lo puoi interiorizzare un po' la questione, ecco. Beh, vabbè, comunque quello è un discorso aperto del 1900, che comunque lo so, però io penso che per una nazione, per un popolo, o perlomeno per una popolazione di lingua in particolare, perché ovviamente parliamo Austria, Svizzera, Germania, non è facile, no? Che ogni volta comunque i film, i videogiochi, le robe genere ti ricordino che tu sei stato un abominio dell'umanità. Insomma, io penso che non sia facile, insomma, no? Bypassare o superare una cosa come questa, per quanto la Germania poi in realtà sia diventata poi un paese veramente cosmopolita, aperto al mondo. Berlino è una città fantastica, piena d'arte, sì, proveniente da ogni parte del mondo. Però ma non è che perché parli tedesco, è vietato anche Svizzera, no, non ha mai centrato, cioè è sempre rimasta neutrale. Quindi per dire. È un po' lo stesso discorso, cioè, come se ti dicono: Stefano Biggio, tu sei un videogiocatore, allora sei un nerd brutto e peloso. Beh, no? Quello è vero, sì, però. È vero. In realtà è vero, no? Però insomma, vabbè. Cioè, dici, il mio caso è vero, ma non è così per tutti. Sei l'eccezione. Se tu guardi Pierpaolo Greco, invece, insomma, è un bel figaccione. Io vedo sempre nelle super dirette e dico: creato lui. Non sono proprio l'esempio del Latin Lover, no, italiano, però, del maschio, però italiano, non sei neanche Pierluigi. No, nel senso, sì, ti ringrazio, lo prendo come bravo, prendilo come suo. Ognuno piange con i propri occhi, perché qui se stiamo qui a mettere a facile esatto. Pulci tra di noi, non è che Marco? No, sulla Germania Simo, sì, sono perfettamente d'accordo, nel senso che a me capita anche di discuterne anche con i colleghi e così via, ogni tanto si legge appunto la notizia del Gears of War, mi ricordo c'era stato il Gears of War che non era uscito in Germania, cioè per me quello diventa veramente un estremismo, veramente una paranoia, cioè che la Germania probabilmente ci riesce a battere dal punto di vista della censura, persino noi in Italia che siamo veramente super retrogradi ci riesce a battere sotto ogni punto di vista. Secondo me lì si pecca un po' veramente di paranoia, un po' di estremismo, cioè come dire, proprio bloccare o censurare, perché poi in Germania hanno il blocco, che è una cosa per me fuori completamente proprio dal concetto umano, bloccare la vendita di un videogioco, l'importazione di un videogioco perché è violento, lento, punto, perché è sanguinolento, punto, perché potrebbe avere richiami a una qualche forma di dittatura, una qualche forma di governo dittatoriale. Mi sembra veramente una cosa molto estrema e un po' mi apre, volendo proprio essere super superficiali, mi crea un pochettino il pensiero che la Germania su questo fronte è talmente insicura di quello che può insegnare al suo popolo, cioè nel senso i genitori possono insegnare ai loro figli, che preferiscono che non vengano in nessun modo corrotti o messi davanti a un videogioco violento, perché oddio, magari facciamo crescere il nuovo Hitler se lo facciamo giocare a Gears of War in Germania. Cioè, a me questa roba mi diventa veramente una cosa estrema della società umana, un po', cioè, mi dispiace, perché ti ripeto, cioè, secondo me c'è forma e forma. Il videogioco lo porti, lo puoi mettere vietato ai minori di anni 18, lo puoi mettere dove ti pare. Non fare entrare un videogioco alla fine stimola il classico, la classica cosa contraria, cioè pur di averlo in tutti i modi lo vado veramente a giocare di nascosto nel sotterfugio, me lo gioco per conto mio, non mi faccio vedere da nessuno, lo sto provando, ma alla fine in un modo o nell'altro lo gioco. Ecco, lì secondo me sono un po' estremi, sono un po' paranoici su questo. Allora, prima di passare un attimo la parola a Marco, proprio così chiudiamo questo cerchio, così poi Stefano possiamo andare avanti un attimo anche alla cosa successiva. Prima di tutto un consiglio magari anche per gli ascoltatori, per chi ne volesse, cioè ne avesse voglia. Ovviamente Germania anno zero, trovatelo il film, guardatevelo, penso che sia forse probabilmente un, date gli elementi, no? Perché il problema, io sono d'accordo al 100% con quello che ha detto Pierpaolo, e soprattutto penso che sia, come dice lui, assurdo il fatto che ancora oggi ci sia un blocco che poi è più un blocco concettuale e politico che un blocco realmente psicologico. Però è vero dall'altra parte che in Germania loro l'hanno vissuta quella cosa, e c'è gente che ci ha creduto. C'è gente che ci crede ancora. E c'è gente che ci crede ancora. Quella è una cosa grave. Ancora, no, e non è una cosa da sottovalutare per la Germania. Cioè nel senso che la Germania ha perso due guerre mondiali per la stessa ragione. Cioè questi volevano conquistare il mondo tutte e due le volte, e tutte e due le volte sono stati comunque ridimensionati. Quindi è un po' un discorso un po' particolare, che ovviamente non riguarda noi, però ci fa riflettere sul fatto che invece, vedi, come diciamo, i videogiochi affrontano indirettamente o direttamente tematiche che sono comportamentali, psicologiche, anche sociopolitiche, come tantissimi altri medium, come può essere un libro, come può essere un film, come può essere un serial televisivo. Quindi merita, così come dovrebbe essere, la dignità che noi speriamo che acquisti in maniera definitiva e venga preso per quello che è, ossia un'opera di narrativa, di intrattenimento, quello che volete, che però, voglio dire, abbia anche il suo spessore, la sua maturità e la sua collocazione per bambini, quello che è per bambini, e per adulti, quello che è per adulti. No, Marco? Esattamente. Però tornando al punto di prima, mazza che pistolotto sì, ma sì, te ne so io. Mi sono perso a metà strada, io mi sono addormentato da solo. E diciamo che il problema anche dei videogiochi è che, essendo una cosa nuova, ovviamente deve anche essere un po' inquadrata, perché fino a qualche giorno, fino all'altro ieri, era comunque una cosa che era giocata da tutti, era un gioco che era per tutti, non c'erano classificazioni. Quando i primi giochi, che potevano essere che ne so, quelli vecchi, Asteroid, Donkey Kong, che cavolo ne so, Pong, cioè lì su che ti potevi attaccare? Cioè non è che c'era la violenza, il sangue, il spargimento, era comunque, il giocare era per tutti. Valla a far capire poi alla gente che c'è una certa età che non è più così, che comunque è voluto il videogioco, ma non è voluta la concezione del videogioco. Non è certo, perché ancora siamo attaccati a vecchi ricordi, insomma, come i cartoni animati. All'inizio che cartoni animati c'erano? C'erano i cartoni animati corti di qualche minuto, con Topolino che ballava dentro alla barchetta, quelli che ne so, The Walt Disney, ma cioè, non è che erano fiabe, non c'era la violenza nei cartoni animati. Però era sempre molto edulcorata, non è che c'è stata gente spappolata. No. È venuta dopo questa cosa, per cui far accettare a gente che è cresciuta per anni, se non decenni, con una concezione di giochi, di film, di libri, parlando di vari media, di cartoni animati che erano per tutti, poi non è facile fargli capire che non è più così. Quindi secondo me ci manca ancora un po' di tempo prima che si riesca a entrare. Fino a che non inventeranno qualche altra cosa che va bastonata, poi passerà di moda anche. Fino a che non uscirà il nuovo rock and roll. Nuovo rock and roll o nuova media. Qualcuno vuole replicare, se no Stefano. No, io direi che possiamo anche proseguire. Un po' ci ricolleghiamo con il punto di prima, quindi in questo caso le controversie, i videogiochi che creano delle controversie, che fanno discutere, che vengono quindi vietati o che vengono criticati aspramente fondamentalmente dalle riviste di stampa generalista e in seguito anche dai politici. Quindi gli esempi che possiamo portare sono tantissimi, appunto. Si parte da, come stavamo dicendo, da Death Race a Mortal Kombat, che costrinse a creare un sistema di classificazione addirittura, per poi passare Wolfenstein, Doom, Grand Theft Auto, un altro gioco che creò proprio, fu uno spartiacque, io ricordo, nel libro Wanted, adesso non per non per dire, ma in Wanted sì, viene anche spiegata tutta la storia dal punto di vista politico di quello che ha creato questo gioco, questo media, che è risultato necessario dare una classificazione che prima non esisteva. In parte è una cosa che è stata negativa dal punto di vista delle vendite per quanto riguarda Grand Theft Auto, perché li ha limitati, da un'altra parte però ha creato, ha costretto giocatori e famiglie ad avere una consapevolezza maggiore nel riguardo al videogioco. E oltre a questo possiamo proseguire tutti i Grand Theft Auto, Carmageddon, che in realtà non esiste, eh. In che senso? Cioè nel senso che avrebbe dovuto costringere le famiglie ad avere una consapevolezza che in realtà no, non esiste. No, consapevolezza del fatto che comunque il videogioco, mi sono spiegato male io, che comunque il videogioco è un media multiforme, quindi non puoi pretendere che GTA sia usufruito dal bambino e alla stessa maniera dal bambino e dall'adulto. Ogni cosa ha il suo target. Quel gioco lì era stato concepito per avere quel target, e idem gli altri tendenzialmente. Quindi possiamo dire che in questo caso ci chiediamo, o meglio, la percezione di cosa è giusto, cosa è controverso, cambia nel caso di posizioni sociali diverse e posizioni familiari diverse. Ad esempio, in America tendenzialmente chiunque si mette a dire qualunque cosa su qualunque cosa, cioè è una questione proprio di popolo. Adesso non c'entra niente, ma parlando con un mio vecchio padrone di casa svizzero, lui mi ha detto: guarda, se noi abbiamo dei manuali di istruzione degli elettrodomestici così voluminosi, con scritte delle cose stupidissime come ad esempio non farsi il bagno nella lavastoviglie perché potresti farti del male, è colpa degli americani. Cioè dice, perché loro mettono bocca su qualunque cosa, in modo da costringono i produttori in questo caso a dover mettere degli avvisi. Quindi e questo riguarda completamente l'America. Al contrario invece altre nazioni come magari l'Italia, la Spagna, per la maggior parte tendono a essere molto più libere da questo punto di vista. Cioè tu ne puoi usufruire come ti pare, noi ti diamo delle indicazioni. Basta che non te più o meno, sì. Basta che stai attento. Oppure cazzi vuoi, se vai male, basta che stai attento. Quindi non lo so, Simone, per te appunto la cosa cambia da posizione sociale. Ad esempio, una famiglia alto locata avrà una percezione più oggettiva di GTA e dirà: no, non lo compro perché mi informo, eccetera, eccetera. No, guarda, ti dico una cosa, io allora, di questa cosa con Pierpaolo ne avevamo già parlato nella vecchia puntata di Tutto un Podcast in cui parlavamo di Heavy Rain, per ovvie ragioni, perché su Heavy Rain, come tutti sapete, c'è la famosa scena di sesso, e quindi un po' di questi argomenti ne abbiamo anche già parlato. Insomma, sarebbe carino andarla a ripescare quella puntata, che tra l'altro fu molto interessante, perché parlavamo poi ovviamente di film interattivi. In realtà non è secondo me soltanto il problema della posizione sociale in termini economici, ma è la tua posizione sociale a livello individuale, cioè nel senso se tu sei un ragazzino videogiocatore o se sei un genitore videogiocatore. E lì la tua percezione della cosa indiscutibilmente cambia. Io quando ero ragazzino non avevo comunque nessun tipo di responsabilità, e c'era la polemica su Carmageddon, dicevo: ma che so ste stronzate, ah però vaffanculo, sti politici si mettono sempre in mezzo, ah censura, quello quando lo allacciacchi diventa lo splatter verde e via dicendo, e dicevo che era una cazzata. In realtà poi quando mi sono trovato dall'altra parte mi sono posto il problema che ovviamente a 8 anni mio figlio voleva giocare a Call of Duty perché in classe sua lo giocavano tutti, e quindi mi sono dovuto trovare a confrontarmi con una cosa che in realtà mi ha portato dall'altra parte, per semplice fatto E che hai fatto? Eh? E che hai fatto quindi? E quindi? E che fa? Mi piace sapere questa cosa. Tuo figlio che ti ha chiesto di 8 anni di giocare a Call of Duty, non ce l'ho fatto giocare, ma cercando anche di spiegarglielo, nel senso che se io quello che Call of Duty è una merda, ma al di là del gioco, al di là del parere, non perché è violento, è meglio Battlefield, quello... l'hai detto a Call of Duty non si gioca, certo, infatti è più realistico. Io dicevo, cioè, nel senso, il discorso è semplice, se c'è scritto 16 o se c'è scritto 18, anche se tu non lo capisci, c'è indiscutibilmente una ragione, e la ragione non è legata solo al fatto che il divieto è imposto perché io sono grande, ti do un divieto, ma è imposto perché c'ha un senso, c'ha una ragione, magari è per salvaguardare anche un certo tipo di sensibilità. Tu questo adesso non lo puoi capire, ma sicuramente lo capirai quando sarai un po' più grande e magari ti faccio E poi me lo spieghi, scusami finisci che poi ti voglio interrompere. No, è questo un po' il discorso, è quello che facevo, cioè nel senso che il problema non era tanto poi cercare di spiegarlo a lui, il problema era il fatto che siccome gli altri ce lo avevano o ci giocavano, allora ci doveva giocare anche lui, perché non giocandoci chiaramente non, esatto, creavi una differenza, era escluso. E allora ti voglio chiedere questa cosa provocatoria. Io non ho figli, ci mancherebbe, sono molto convinto, siccome mi ricordo a me da piccolo, sono molto convinto dell'intelligenza furbesca dei bambini o dei ragazzini, e quindi ti dico, certo. Ecco, cioè, tu sei convinto che tuo figlio di 8 anni, o se va a casa di un amico o per qualche strana combinazione astrale, non ci giochi in qualche modo? E alla luce di questo fatto qui, non pensi sia meglio a questo punto, visto che secondo me non gli può impedire di giocare a Call of Duty, perché secondo me lo trova il modo per fregarti dall'alto della sua paraculaggine, e secondo te non è meglio se magari, cioè, anche se fra virgolette vai contro il rating, non sarebbe meglio se, vista la sua richiesta, ci giochi insieme a lui un'ora, un giorno e gli spieghi delle cose? Ma guarda, io ho fatto questo ennesimo ragionamento con lui, perché io gli ho detto, guarda che 16-18 non significa soltanto che è qualcosa di vietato, che ovviamente a te ti attira e quindi lo vuoi fare, significa anche che tu a 8 anni non sei in grado magari di giocare, o non sei capace a tal punto di giocare magari a un certo tipo di gioco, però ci puoi anche provare, perché non è che ho detto io non l'ho mai fatto provare ad affrontare determinate cose. Io quello che dico è che, e questo è una regola educativa base per me, poi chiaramente può essere giusta, può essere sbagliata, no? Fumare è sbagliato, fumare fa male, io non ti posso impedire di fumare, quello che ti dico è che tu non devi fumare, e dentro casa tu non fumerai, perché io, e se ti vedo che tu fumi, chiaramente ti punisco. Ma questo non significa che tu non lo farai nella tua vita, o che io sarò sempre presente, però il mio compito comunque non è quello di dire, dato che io comunque non ti posso vedere o non posso sapere se tu giocherai a Call of Duty o fumerai una sigaretta, allora lo puoi fare, capisci? Cioè è un po' questo il discorso, nel senso che tu devi porre un limite, poi sta a lui riuscire a capire o a assorbire quel limite o a superarlo o a bypassarlo o a regolarsi di conseguenza, perché poi tutti li abbiamo scavalcati i divieti, no? Sì. Quindi cioè, sì. È il gioco della vita che è così, ed è per questo che io accetto il fatto che comunque in un gioco che secondo me c'è un certo tipo di violenza che può essere eccessivamente banalizzabile per un bambino, è giusto che il bambino non ci giochi, però è ovvio che io non posso impedire in senso assoluto che lui giochi, però il mio compito è quello di fare in modo che lui non ci giochi, per me. Ma allora vi richiedo, vi faccio un'altra domanda: in certi videogiochi, ad esempio in Call of Duty c'è la possibilità di limitare la violenza, quindi renderla un po' più smussare gli angoli, diciamo, anche così. Cioè limitare la violenza significa non far vedere le cervella, cioè. No, non muore nessuno, svengono tutti. No, ecco, io mi chiedo, in questo caso invece, utilizzando un sistema che sia una via di mezzo, chiedo appunto al Simone Pizzi genitore, non lo vedresti come una possibilità, nel senso, ok, ti faccio giocare a questo gioco che è vietato e così via, però chiaramente tolgo tutti quei contenuti che potrebbero disturbarti in questo caso, tra virgolette. Poi ti dico come la penso, guarda, io, ecco, dopo il poi. Poi il problema, ragazzi, è che allora qui stiamo in una sottile confine. Poi ecco, voglio sentire un attimo Pierpaolo, perché ho detto con Pierpaolo già ne avevo parlato di questa cosa, e quindi so più o meno come la penso io, so più o meno come la pensa lui, ma è giusto insomma sentire anche i vari concetti, no? Nel senso, anche i vari modi di concepire le cose. In realtà qui siamo in quella sottile linea dell'ipocrisia, no? perché un po' è così, ammettiamolo anche, perché noi siamo cresciuti con A-Team, dove praticamente tutti si sparavano e nessuno moriva. Si sparavano, c'erano le armi, c'era la violenza, strumenti di guerra e di morte, però nessuno moriva. Cioè, il fatto che non moriva significava che andava bene, perché in realtà non erano malvagi, no? Non è che uccidevano, smettevano paura sparando a destra e a manca in maniera, e rompendo macchine, spaccando in maniera assolutamente impossibile, perché quando tu smitragli a destra e a manca in 50 persone, prima o poi qualcuno deve da morire per forza, no? Però vabbè, ha messo questo, cioè Uncharted. Quanto era il limite di Uncharted? Come 14 era, come o 16? Non me lo ricordo. Secondo me 16, sì. Sì, okay, non io penso Uncharted da Matteo ce l'ho fatto giocare quando aveva già 9-10 anni, roba del genere, perché pensavo che fosse anche più, tra virgolette, facile, no? Come gioco. Nel senso che tanto poi è inutile che lui si metteva a giocare giochi che magari lo avrebbero frustrato e basta. Cioè, nel senso, impara a giocare piano piano fino a che non diventi più skillato e piano piano giochi anche altri giochi. Cioè, su Uncharted è vero che è molto adulcorato, è molto per ragazzi, no? È il gioco, è il film d'avventura. Però è vero pure che quello, esatto, quello quando, tra l'inizio del gioco e la fine del gioco erano ammazzati 3-4 dei cristiani. Sì, no? Sì, quello decisamente. Quindi ecco, siamo in quella linea estremamente sottile dell'ipocrisia, no? Nel fatto del comunque, siccome che non si vede le budella, allora non è violento. Però è vero pure che una cosa è la morte che percepisci in maniera palese e palpabile come finzione, e una cosa è la morte che percepisci come, come diceva Pierpaolo all'inizio, realistica. Non no, so che, scusa, Pierpaolo, posso inserirmi velocemente, se no poi me lo dimentico. Ok. Ma scherzi, vai. È la nostra supposta preferita. Dai, io porto l'esempio, adesso non mi ricordo il nome del programmatore che si è occupato di fare per PSP un God of War. È italiano, sì, però vive in America. Andrea Pessino. Pessino, ecco. Ricordo in una sua intervista lui diceva che giocava a God of War assieme al figlio. Il figlio due anni. Avuto... no, qualcosa di più. Però ecco, lui portava l'esempio del fatto che giocandoci assieme, il fatto che il figlio fosse abituato a... Cioè lui gli aveva anche fatto delle domande per capire cosa ne pensava lui riguardo a questo tipo di violenza. Lui, il figlio, bambino quasi, ragazzino, molto piccolo, capiva che quella era la cosiddetta cartoon violence. Quindi era una violenza, appunto, stile, no, non dico stile Uncharted, ma una cosa molto... Come poteva essere, beh, come dai, poteva no, essere quella di Ken, non di Ken il Guerriero, ma facciamo di Dragon Ball, ecco. Vabbè, no, più no, che nel Guerriero, no, che Dragon Ball, più che Dragon Ball, più che Guerriero per Dragon Ball. Però dico, comunque un tipo di violenza dei cartoni animati a cui, ad esempio, io mi pongo questa questione. Io sono cresciuto, ho guardato Ken il Guerriero, Cavaliere dello Zodiaco, Mazinga, altre cose, botte da orbi, sangue, budella. Perché mio figlio non può fare la stessa cosa? Cioè, nel senso, perché non può diventare un bigio? Perché devi far diventare tuo figlio come te, scusa? Non potresti cercare di migliorarlo, no? Io ribadisco, poi passiamo veramente alla parola, sì, a Pierpaolo, sì, che spero che abbia preso appunto nel frattempo. Cioè, io ribadisco il fatto che secondo me, cioè io quando ero ragazzino, a me mi inquietava anche a me tantissimo, a me inquietava tantissimo, cioè nel senso, io sì, lo sì, devo sì, ammettere, se non lo ammetto non sono onesto con me stesso. Io dico una cosa e poi passo a Pierpaolo per farvi capire. Io dicevo, vedi che figo. Io questo. Vabbè, pure tu hai problemi grossi. No, allora, io mi ricordo che Ken il Guerriero mi faceva. Io ero piccolo quando lo guardavo. Mi mettevo a piangere guardando la sigla, ok. Però il cartone animato non mi creava nessun problema. Ok, cioè non so perché. Sei un po' psicolabile anche te, probabilmente. Non voglio indagarci. Questo mogacci, so, comunque. Comunque, detto ciò, passo a Pierpaolo. Allora, appunto, sono tante cose. Allora, io prima a Simo ti ho fatto la domanda volutamente provocatoria, perché, e sia chiaro, io mi becco la giustificazione di non avendo figli, cioè, come non ho figli, la penso diversamente da te. Poi probabilmente al momento in cui avrò figli dirò, ah, ma guarda, X anni fa Simone mi diceva così, c'aveva proprio ragione, nel senso che io per esempio quando ero ragazzino, appunto, lo stesso Ken il Guerriero, ma anche Carmageddon, ma anche una serie di film, ho detto A-Team rappresenta bene, ovviamente io avevo, appunto, i miei genitori erano abbastanza rigidi, soprattutto mio padre era abbastanza rigido, e è molto molto rigido, anzi, e tra virgolette mi impediva, insomma, mi rendeva la vita molto difficile nel fare determinate cose. Io anche Doom, il primo Doom per giocarlo fu un dramma, per cui lo giocavo senza farmi sgamare, fondamentalmente. Ecco, io partendo da questo dico, secondo me ci sono stati dei momenti a 10 anni, 11 anni, 12 anni, in cui, siccome tanto ci giocavo, anche se non ci avrei potuto giocare, probabilmente mi avrebbe fatto bene per alcune cose avere a fianco mio padre. Poi nel caso di mio padre, lui non è neanche è videogiocatore, quindi non so quanto mi avrebbe potuto aiutare, però probabilmente se avessi avuto di fianco una persona un po' più di senso intelligente rispetto a me di 10 anni, alcune cose mi avrebbero aiutato più che altro nel capire come affrontarle. Perché tu, ecco, tu dicevi Ken il Guerriero, ma io ti dico delle cazzate che probabilmente non c'entrano nulla. Però per esempio io mi ricordo, guardavo Ken il Guerriero e ci fu un periodo che, senti questa fa ridere perché sono stronzate, ci fu un periodo che io avevo il terrore di farmi male alle tempie. Sai, visto che lui infilava le dita nelle tempie e ti faceva esplodere, lo so che sembra una cazzata, lo so che sembra una minchia, cioè avevo questa convinzione che ormai, siccome lui infilava queste cazzo di dita nelle tempie, le tempie erano un punto debolissimo del corpo, ci se niente per trapassartele. So che sembra una minchiata, però probabilmente se avessi avuto accanto una persona intelligente come non ero io, mi avessi detto guarda che, cioè, questa è una stronzata, cioè fa parte del cartone animato, eccetera eccetera, forse mi avrebbe aiutato. Così come dico un'altra cazzata, lo stesso i team che tu portavi, sai, quei telefilm MacGyver, i team che facevano queste tonnellate di scazzottate, milioni, facevi queste risse di cazzotti su cazzotti dove loro non si facevano mai male, mai, mai. Oh, io ti giuro, mi capitò due volte di fare botte a scuola. La primissima volta andai anche un po' spavaldo, avevo 14 anni, 13 anni, vieni abbondanti, convinto che vabbè, ma tanto, cioè 3-4 cazzotti, cioè una decina di cazzotti li prendi prima che ti facciano male, cioè guarda, sì, oh, sì. Sono delle picchiate, ma li puoi sopportare. Appena arriva il primo capisci che hai visto solo stronzate, no, fino a quel momento, perché cioè dici ok, posto, mi ha tirato uno, tu vai, cioè no, ecco. No, confermo, questa, cioè, confermo. Cioè capito, sono delle cazzate che ho una persona, siccome tanto appunto le vedi comunque. Io sono molto convinto di questo fatto, pure se dico a mio figlio non giocare a Call of Duty, 10 anni, lui va a casa dell'amico e ci gioca, ci fa la super sessione pomeridiana, cioè probabilmente forse stando accanto una serie di paranoie, di pippe mentali, di cose dovute alla sua mancanza di esperienze, gli vengono in mente, magari gliele posso, non dico risolvere, magari mitigare, aiutarle in una serie di cose. Poi ovvio che ci sono estremi, God of War è estremo, cioè God of War è veramente il gratuito all'ennesima potenza, sia chiaro, non lo dico in modo denigratorio, perché per me God of War 3 è un capolavoro proprio assoluto. Però sicuramente è, cioè, che vai a spiegare lì, una persona che è la più violenta del mondo vuole ammazzare tutti nel modo più terrificante che gli possa fare il massimo male possibile, cioè ti devono veramente aver fatto incazzare. Però ecco, ci sono una serie di cose che secondo me puoi andare a spiegare, cioè è più comodo giocare accanto a tuo figlio, comunque giocare accanto al minorenne, piuttosto di dirgli no, guarda, non ci devi giocare perché un giorno lo capirai o quello che sarà. Adesso ti ripeto, Simo, non è che ti voglio criticare, ci mancherebbe altro, no, ma io me lo ricordo perché, cioè, ho detto, mi è piaciuto riprendere sto punto perché mi ricordo che ne avevamo parlato e so come la pensi e diciamo che tendenzialmente sarei anche d'accordo con te. È che purtroppo questo, sì, sul concreto magari poi... no, ma non è solo questo, è che magari poi uno lo percepirà successivamente, cambia proprio il modo in cui tu guardi la persona che ti sta, il bambino che ti sta di fronte, e quindi conseguentemente quello che tu provi a livello comportamentale, perché sono alcune cose che magari ti possono imbarazzare anche a te, no? Nel senso, non è che noi siamo perfetti, no? E quindi sappiamo, in teoria sarebbe giusto anche quello che dici tu, in pratica poi dopo diventa sempre un po' tutto più complicato, perché te lo guardi e dici vabbè, ma non è che lui già è entrando nell'ottica che esiste questo o quest'altro, no? Poi in realtà ti sbagli, però la verità è che quello che faccio io, è il mio compito, penso, è quello di spiegargli quello che non dovrebbe fare secondo me e quello che dovrebbe fare secondo me. Poi ci sono alcune cose che secondo noi famiglia non devono assolutamente essere fatte, cioè non toglie il fatto che comunque quando sai che le fa, perché lo sai, non è che sei uno stupido, insomma, nel senso che come tua madre o tuo padre sapevano quando tu lo facevi ugualmente, e quindi lo sapevano, lo sai, certo, cosa, cavolo, non lo sapevi? Come faccio? Lo devi uccidere tutti, terminare tutti quanti mettendogli le dita nelle tempie, vabbè, l'altro. Comunque no, la cosa migliore secondo me è capita adesso, non capita dopo. Oh, l'ho detto che dicevo una stronzata che sembra una cosa idiota, però no, ma guarda che, piccolo, guarda, mi ricordo allora, questa cosa, cioè, tu ti ricordi sui giornali, no? Il ragazzino si butta di sotto facendo Goldrake, no? In realtà, sì, come, esatto, come dicevi tu prima, in realtà la stampa ogni volta che c'erano fenomeni più o meno compresi, ovviamente ci sguazzavano, no? Dicendo poi magari la ragazzata, esatto, non è vero che il ragazzino si era buttato dicendo Goldrake, no? Però qualcuno sapeva che lui si guardava sempre Goldrake, allora l'articolo sul giornale diventa il bambino si butta di sotto facendo Goldrake, no? E il problema è che indipendentemente dal fatto se è vero o no, noi la generazione nostra, anche quella di Pierpaolo, ma la mia forse ancora di più, eravamo senza filtri. Cioè, sì, noi esatto, eravamo allo stato brado, cioè proprio eravamo esposti alla merda proprio, perché poi diciamo anche che eravamo più coglioni di quelli di oggi, fondamentalmente c'era un ritardo di apprendimento rispetto a quelli di oggi, ma non lo so, questo non lo sì, so. Sì, sì. No, che magari adesso si sa, cioè adesso tu sai che con una valutazione veloce puoi capire se quel prodotto è adatto o no a tuo figlio, a tua sorella e così via. Lascia sta misura. Vengo là. No, parlo anch'io da fratello, mia sorella ha 11 anni ad esempio, quindi chiaramente anch'io mi preoccupo. Se mia madre mi chiede ma può giocare a God of War a 11 anni, io le dico no mamma, però magari ecco, cioè, cambia la percezione, non cambia ma l'idea, ma ci sta assolutamente. No ma dico io in primis dico, penso che secondo me la cosa migliore è valutare ogni singolo caso, cioè nel senso guardati quel videogioco con quella persona, con quel bambino, con quel ragazzino, e soprattutto cerchi di insomma di capire, cioè la vecchia generazione non era abituata a fare questo ragionamento perché non era neanche abituato a conoscere questi media, quindi tu non potevi capire se non col tempo, magari, ok, tranne in casi estremi come che il guerriero, magari una cosa come Dragon Ball adesso ti direi ai bambini molto piccoli non farla vedere quando sono un po' più grandi, al tempo invece non ti ponevi neanche il problema, cioè non c'era proprio la concezione di cartone, ma perché non eri per tu che, ma perché non eri tu che ti dovevi porre il problema, cioè no tu eri solo esposto, ma infatti io dico da parte dei miei genitori è solo una spugna, esatto, tu eri esposto alla sola. Sì, no mi dico da parte dei miei genitori non c'era per loro, è forse chiaro, non c'erano neanche i mezzi perché era troppo nuovo, quindi chiaramente non è un problema di media, è un problema di chi ne usufruisce e a chi lo fai usufruire, quindi secondo me la cosa migliore è sempre valutare ogni singolo caso, ogni singolo videogioco. È impossibile fare di tutta l'erba un fascio, non è giusto nei confronti sia di se stessi perché che soprattutto dei bambini o del ragazzo che vuole giocare, certo, che il giorno in cui un figlio di 12 anni con la barba, a quel punto dirò beh sì, forse sei pronto anche a giocare a Call of Duty però sì, io sì, dovrò pormi altri tipi di problemi, insomma. Io direi di andare avanti comunque, sì. Sì, sì. Solamente due cosettine velocissime. Vai, se Pierpa, mi permettete, solamente volevo dire la cosa che prima ho sentito appunto Stefano che lo diceva sul rimuovere il sangue piuttosto che lo sbudellamento nei giochi, sai, l'applicazione dei filtri, quella roba lì che spesso fanno i giochi, quella è dal mio punto di vista una grande cazzata fra virgolette, nel senso che secondo me va solamente incontro a chi è infastidito dalla visione del sangue. Per esempio io ho un carissimo amico che gli dà fastidio vedere il sangue, gli dà fastidio vedere il sangue anche nel videogioco. Non è secondo me una cosa che smorza la violenza, perché sì, giochi infatti a Call of Duty, ti parte il primo livello e gli tiri, non so se avete giocato l'ultimo, ma tu parti e tiri un colpo di macete sul cranio di uno, cioè lì sangue o non sangue gli sta infilando un colpo di macete sulla, esatto, capoccia di uno, quindi esatto, non è tanto la questione del sangue, secondo me va più incontro a chi è infastidito dalla visione di una serie. Per esempio a me dà molto, io sono uno che dà moltissimo fastidio allo splatter nei film, tantissimo, però non è che non vede film horror, semplicemente mi dà molto fastidio lo splatter perché mi dà fastidio, punto. E quindi penso vada più incontro lì. E l'ultimissima cosa velocissima, tu prima dicevi io alla fine sono cresciuto bene pur guardando quello che ho guardato, e per me in parte si ricollega a quello che ho detto, nel senso che magari potevi crescere meglio se qualcuno ti avesse controllato quelle parti lì, mo te lo dico scherzando, però il senso è quello lì, nel senso sì, però non puoi sapere su cosa ti ha fatto male, magari aver visto, ecco appunto, Sirio che si cieca per non vedere la medusa, cioè magari se avessi avuto uno accanto era meglio. No, quello da quel punto di vista sono perfettamente d'accordo, ma questo riguarda, in questo caso riguarda i videogiochi, ma in generale riguarda tutto. È tutto, però, certo. Sì, no, in questo sì, caso sì, assolutamente. Mi sarebbe piaciuto che magari i miei genitori fossero più non è neanche una questione di presenza, è proprio una questione di concepire il prodotto, cioè quello che stavo andando a usufruire. Però chiaramente mi rendo conto che non c'era modo, quindi non puoi incolparli, tra virgolette, non li si può incolpare completamente almeno. Poi dipende, ci sono i casi dove magari appunto tu sei pessino e conosci benissimo quel mondo lì, allora magari sai valutare meglio cosa è giusto o cosa è sbagliato in certi casi, chiaramente. Però sì, effettivamente sono abbastanza d'accordo con te. Se sarei potuto crescere meglio, quello sicuramente. Quello lo sappiamo benissimo. Questo ormai è andato, ragazzi. Comunque, non è colpa dei cartoni animati, ma manco dei videogiochi, secondo me. No, con questo punto ho visto che vi è piaciuto con tutti. Un bel punto particolare, però io a questo punto passerei un attimo a. Allora, sappiamo che come insomma per altri tipi di forme di intrattenimento, anche nei videogiochi ci sono delle classificazioni, no? Facciamo, chi è che vuole fare un attimo una panoramica giusto per sapere quali tipi esistono più o meno, insomma non credo ce ne siano tantissime poi in realtà, perché credo ce ne sia. Di classificazione intendi, cioè no diciamo a livello, per quanto riguarda i videogiochi mondo? Nel mondo, insomma, io penso ce ne sia una a livello europeo, una a livello americano, poi penso giapponese, asiatico, non credo che ci siano poi. No, in realtà di classificazioni ne esistono 16, di 16 tipi diversi, però ovviamente quelle più utilizzate sono il classico SRB e il PEGI. Il PEGI è a livello europeo, quindi tutta l'Europa. SRB è quello che usiamo anche, che viene applicato anche in Italia. Anche, esatto, quello che usiamo noi. Che era, prima era esclusa l'Inghilterra proprio quest'anno, o l'anno scorso è passato, c'era una sua classificazione a parte l'Inghilterra, adesso è nel PEGI, cioè, utilizza il PEGI anche lei. Ok, io non so per Paolo, perché qui magari, cioè, nel senso anche per passare un attimo a Pieppari, insomma, se sai se a livello europeo in qualche maniera il PEGI rappresenta degli obblighi. Cioè, nel senso, se sono comunque se sono paragonati a delle leggi, cioè se comunque in qualche maniera la vendita o non vendita o il tipo di classificazione per i produttori e distributori rappresenta veramente un obbligo o è soltanto un'autocertificazione. Allora, in Giappone sì, che hanno il CERO, che è quello che hanno solo loro, che hanno quello con le lettere C, Z, B, lì, quello che è, sì, nel senso che loro hanno addirittura, se c'hai i giochi quelli Z, che sono quelli lì 18 più, li devi fare proprio in posti speciali dei negozi, con accesso controllato, eccetera, eccetera. Io adesso non so per tutti i paesi, né ne può fregare di meno, per dirla molto tranquillamente, in Italia no, in Italia assolutamente no, è un'indicazione ed è quello che noi del settore continuiamo a chiedere a gran voce, anche tramite l'ISVI, l'associazione quella, insomma, degli editori di videogiochi in Italia, alla politica di far diventare diciamo obbligatorio, nel senso che se il negoziante oggi vende il gioco God of War 3 18 più a ragazzino di 12 anni, cioè anche la finanza, il vigile urbano, chiunque, non gli può fare nessun tipo di multa. Per noi questa cosa dovrebbe essere fatta, cioè dovrebbe essere nelle mani del venditore e dire: devi controllare la tua carta d'identità, se sei almeno 18enne allora ti posso vendere il gioco, altrimenti no, perché diciamo agirebbe come piace dire tanto ai giornali, il rigurgito di censura che periodicamente c'è, nel senso che questa volontà di bloccare i giochi 18 più in Italia perché non ci può essere controllo sulla vendita è una cosa che a me fa veramente schifo ed è una cosa terrificante, cioè si immagino che a un certo punto non vendono più giochi 18 più perché in Italia non sappiamo come controllare a chi vengono venduti, quindi l'ideale sarebbe ci fosse, ma attualmente non c'è, credo che in Europa da nessuna parte sia obbligatorio. Forse in Inghilterra era quello che avevano loro, il BBFC mi pare si chiamava, una cosa del genere, forse quello era obbligatorio, ma non ho idea, mi sembra che neanche in America sia obbligatorio, però sono tutti dei grandi, mi sembra. PEGI mi pare che sia obbligatorio, mi sembra, in Inghilterra, stavo leggendo. Forse solo in Inghilterra, però solo esatto, in Inghilterra, perché gli è rimasto come la BBFC che avevano esatto. loro prima, il resto d'Europa è assolutamente. Considerate che nei paesi britannici c'è anche il fattore delle leggi non scritta, e comunque Esatto, conta, che invece da noi non conta, che è un vantaggio, anche se a volte può, cioè nel senso, se si stesse in Italia sarebbe un macello, sì, cioè, l'abuso più totale, no? Invece in paesi civilizzati, diciamo che anche il concetto di legge non scritta, spesso e volentieri, insomma, disciplina anche la popolazione, insomma, a livello civico. Sappiamo bene che se non è scritto non esiste, non esiste. Se è scritto, esatto, potrebbero esserci miliardi di interpretazioni, esatto, ma se non è, esatto, non è scritto, esatto, non c'è, quindi. Esatto, se non è scritto. Quindi comunque teoricamente così, da noi di certo appunto è un, cioè un'indicazione teoricamente appunto da dare, cioè, per i genitori fondamentalmente o per chi acquista, ma non è assolutamente sanzionabile, ecco. Ecco, quindi praticamente voi, nel senso, come addetti ai lavori e compagnia cantante, insomma, gradireste, sì, sì, sì, sì, che sia sanzionabile, no, no. Sì, sì, assolutamente. Cioè, il gioco 18 più non deve essere venduto al 16enne, al 17enne, al 13enne, al 12enne. Perché? Perché sì, perché così è stato scelto. Perché tra l'altro la classificazione, cioè, ricordiamolo, è fatto dal publisher stesso. Cioè, io che faccio il videogioco dico all'ente che fa la classificazione che il mio gioco dovrebbe essere, cioè una forma di autocertificazione. Il mio gioco dovrebbe essere categorizzato 18 più perché mostra violenza, perché è violento, perché c'ha questo e quest'altro. Quindi è lo stesso publisher che, diciamo, porta avanti questa cosa per far sì che il gioco, diciamo, non finisca in mani che non lo possono, cioè è giocato da persone che non lo possono comprendere. E tra l'altro, appunto, come dicevo prima, diciamo, tenderebbe un pochettino a limitare questo problema che ogni tanto si sente dire del gioco violento, e tu puoi rispondere sì, ok, ma tanto non può essere venduto a quello che ha meno di 18 anni, basta, finisce qui la polemica. Invece questo fatto molto spesso viene cavalcato dicendo però io ho visto quello che è entrata alla COP, aveva 12 anni ragazzina ed è uscito con Call of Duty Black Ops 2 perché il cassiere non gli può dire nulla. Cioè, questa cosa qui andrebbe eliminata. Sì, come sì, per le sigarette, sì. Cioè stesso anche principio. Se poi l'alcol, anche se poi no, nel senso, io sono assolutamente d'accordo con Pierpaolo, perché il fatto che poi comunque anche questo sarebbe, cioè, è bypassabile come problema, in realtà comunque tu dai un segnale, no? Che comunque, esatto, a livello istituzionale per te quello là non è materia per te, no? Poi dopo è chiaro che purtroppo sappiamo benissimo ci dovrebbe essere ragazzini che dentro a Topolino c'erano Blitz, Jim Fitz ci dovrebbe essere un controllo pure però dall'altra parte, pure della famiglia, di quello che portano a casa, perché io bypasso il negoziante perché mi porto... Io non ho mai comprato Jim Fitz. No, Blitz. No, tu li mandavi gli altri a comprarlo, quello lo sappiamo. No, no. Non lo so cosa siano, però no, così no, mi sono venuti. Ma questi nomi sono rimasti. Perché se io mando qualcuno a comprare, anche maggiorenne, un amico che conosco, l'amico del fratello del mio amico, mi va a comprare Call of Duty, io ho 11 anni, poi me lo dà e poi me lo porta a casa, me lo posso giocare e non mi dice niente nessuno a casa. Sì, pure, sì, tra l'altro. È quello il problema, ragazzi. Però perché diciamo, il controllo deve essere anche dentro casa, cioè tu che stai a giocare? Sì, è che l'obiettivo dovrebbe essere quello di rendere la vita un po' più difficile, nel senso che, certo, è come il discorso dell'alcol in America. È ovvio che sanno tutti che quelli con meno di, adesso mi ricordo semmai se è 16 o 18 anni, quelli con meno di 16 anni trovano il modo per comprarsi l'alcol, però è ovvio che lo rendi un po' più difficile. Poi se te beccano ti ammazzano, certo, certo. Sì, proprio fanno libero, allora, facendolo libero di sicuro tutti lo possono comprare, magari mettendolo limitato un 50% lo elimini. D'altra parte è come il discorso delle armi, anche in Italia probabilmente se ti sbatti la trovi una pistola da uno che te la vende ed è illegale. In America è molto più facile, entri in qualsiasi negozio e te ne compri una. Beh, oddio, cioè, grazie a Dio per noi, insomma, a meno che non conosci determinati ambienti è abbastanza complicato, appunto, no? Poi te la rende più difficile, esatto, questo dico, perché cioè, poi cosa comunque un po' limita. Sì, sì, no, ma che poi dopo ritorniamo un attimo al discorso che facevamo proprio prima, no? Sul fatto che, pur essendo d'accordo con Pierpaolo sul fatto che magari, ecco, se io avessi approcciato il rapporto del gioco magari che non doveva essere giocato con mio figlio, giocandoci insieme, spiegandogli determinate cose, dall'altra parte c'è il fatto che tu ti trovi, come l'abbiamo accennato prima e non l'abbiamo affrontato, ti trovi comunque a dover combattere con qualche cosa che emargina tuo figlio. Cioè, tu, se tu dai un determinato ordine, tra virgolette, che è quello di non giocare al gioco che non è per lui, allo stesso tempo lo emargini, perché non gli fai fare una cosa che gli altri fanno. E questo è un problema, perché se fossero normative reali e quindi leggi e che creassero delle difficoltà maggiori e allo stesso tempo dessero anche ai genitori la capacità di comprendere, guarda che se qui c'è star bollino con scritto 18 ci sarà una cazzo di ragione, molto probabilmente la vita sarebbe più semplice, più anche semplice. Per chi vuole fare il genitore che educa e non quello che fa il genitore che sti cazzi, educare i figli in fondo è faticoso, facessero quello che cazzo gli pare, perché ci pensano i Teletubbies. Esatto, perché questo poi è purtroppo il problema generazionale più grave oggi, è che se tu vuoi fare il genitore sei ostacolato dagli altri genitori indirettamente, purtroppo poi alla fine è così, no? Sì, d'accordo. Maledetti genitori. Pensieri? No, vabbè, ma non è, cioè, nel senso, sul fatto che, cioè, il problema, non, anche facendolo diventare le leggi, purtroppo il problema poi alla fine resta in ogni caso. Cioè, nel senso, cerchiamo di farla diventare legge e allo stesso tempo, Pierpaolo, cerchiamo di far capire. Lo so, purtroppo chi legge le riviste o chi legge i portali dei videogiochi, probabilmente, a parte io che ho 40 anni ancora videogioco, insomma, so i ragazzini o so i ragazzetti o quelli appassionati di videogiochi, però e qui ci veniamo magari dopo, se si fanno i movimenti d'opinione contro la critica a priori verso i videogiochi, allo stesso tempo si deve far capire anche ai genitori che quel bollino qualche cosa indica, no? Quindi eventi, manifestazioni, qualcosa da, non so, tu che dici, cioè, nel senso, come si potrebbe approcciare questa cosa? So che costa, lo so. Sì, nel senso che dopo mi ucciderai. Non dipende molto da noi, nel senso, noi possiamo fare molto poco, appunto là si rientra proprio nel politichese, proprio appunto nei gruppi di pressione, cioè là una cosa, appunto, un giorno entrerà nell'agenda politica, quando entrerà nell'agenda politica magari passerà. Ora come ora può essere una questione, appunto, puramente di chiacchiera sociale, nel senso di dire: guardate che ci sta il bollino, fatevelo andare bene, perché comunque quello è già un'indicazione forte. Poi ovvio che purtroppo ancora oggi, se vostro figlio entra in negozio e compra Caterin che ha 8 anni, purtroppo lo può comprare e se lo può portare a casa, là non ci si può far nulla, cioè purtroppo c'è stato le zizze su Caterin, no? È stato, esatto, zizze, pieno di zizze proprio, più che altro zizze a gogo, direi, che sempre no, una zizza poi, che è un fucile, io sempre, ma esatto, ma scusate, ma pure l'alcol da noi mica è regolato, cioè il ragazzino può entrare a comprarsi la birra, o sbaglio? Deve avere almeno 16 anni, mi pare. No. Cioè ti controlla la commessa, sì, quando vai al. Deve avere almeno 16 anni a occhio, però. No, ma è capitato, scherzi a parte, poi se presumibilmente da quest'anno, che un gruppo di ragazzini in un centro commerciale, in un supermarket, mi chiedessero di comprargli l'alcol come nei film americani. E però c'era anche la commessa vicino, e ho detto: no, guarda che. Però avevo detto: vi conosco, non potete perché farlo. C'era la commessa. Io ero già pronto a farmi corrompere. Però pensate. Stavi per mettere fuori il banchetto per vendere, sì, l'alcol, esatto, ai minorenni. Io fuori ero subito dalla, pronto. Però no, effettivamente l'alcol è regolamentato, però idem per le sigarette. Cioè, o se tu sembri un po' più grande dell'età che è realmente, oppure se al venditore non gliene frega niente, anche. Qui c'è un altro punto, un'altra questione. Queste cose le è lo stesso. Quindi, anche nel caso dei videogiochi, ipotizziamo finalmente il fatto che il PEGI diventi legge, quindi è vietato vendere minori di 18 anni. Quanto i commessi, i venditori si interesserebbero della cosa? Mi ricordo che, appunto, nel caso di GTA. Non c'era, in molti casi non c'era controllo, nonostante fosse vietato venderlo ai minori di 16 anni. Il giornalista che si era scagliato per anni contro GTA aveva ripreso il figlio, aveva mandato il figlio, che avrà avuto 12 anni, una cosa così, a comprare una copia di GTA. E lì era stato beccato, diciamo. Non lo so, se lo limiti, tu dici se è preoccupazione poi che i negozianti non lo seguano, non seguano l'obbligo di legge, perché altrimenti vendono meno. Sì, esatto, perché non lo so, cioè, perché tu vuoi vendere, quanto magari la cosa potrebbe cadere sulle spalle della famiglia che non è interessata al fatto che il figlio abbia comprato un gioco vietato, e quanto invece cada sulle spalle dei negozianti o dei siti o dei venditori che comunque insomma si occupano della distribuzione, perché c'è anche da dire che se ad esempio il prodotto lo compri online, non lo so, cioè se tu hai accesso a una carta di credito, di debito di, non lo so, tuo padre ti dice: ok, comprati quel videogioco, lui non vede neanche la scatola praticamente, cioè si è completamente, non è di sicuro colpa del negoziante che non ha controllato. Sì. Hai perfettamente ragione, secondo me però ricade purtroppo tutto nelle mani del negoziante, questo quindi vuol dire sicuramente un allungamento importante, che è appunto il fatto che se lo compri online non so come facciano a tutelarti, non so, magari semplicemente la questione è che devi certificare che sei maggiorenne e poi devi fare dei controlli a campione, non ho idea. C'è anche il fatto che quando avevo 17 anni io non ce l'avevo la carta di credito per comprare su Internet. Infatti te l'hai rubata da tuo padre. No, non c'era internet. No, c'era internet. Avevi 17 anni tu, Ma che io c'era internet? Più di 20 anni di navigazione sulle spalle. No, lo so, ma quando avevi 17 anni tu c'era internet, scusa. Non c'era ancora tipo la BBS, quel tizio che aveva costruito la ruota. No, c'erano le bighe, mi ricordo. I combattimenti. Il popolo chiede se sterzi. No, io vado sempre dritto. Esatto. Sì, ho già girato a sinistra, non preoccupare. Che facile hilarità, però. Allora, vabbè, riprendi il controllo della trasmissione. Sono dei burloni. Luigi. Lo so, sì, Luigi. Stefano Luigi. Va bene, no, quindi io il dubbio è questo, quindi secondo te Pierpaolo alla fine comunque gira e rigira accade sì, sul sì, negoziante. No, cioè per me deve ricadere sui negozianti, sì, cioè se diventa norma di legge secondo me la tutela deve fare il negozio, cioè deve fare anche il perché venditore finale. Chi controlla. Esatto, cioè no, ma ti dirò di più, secondo me io non solo sono d'accordo con Pierpaolo, ma c'è anche un vantaggio, che a differenza di quando eravamo ragazzini io, che vendevano i videogiochi, le botte Gucci, i negozietti dei videogiochi, robe genere, adesso bene o male chi vende i videogiochi sono le grandi catene, no? E quindi esatto. Di solito sono le grandi catene sono sempre quelle che tendono a rispettare le regole esatto. In maniera politica precisa, perché ovviamente se no è come il discorso dell'edicolante, no? Cioè la super edicola, capito, che magari fa attenzione alle regole e c'è l'edicoletta quella dietro l'angolo che ti arriviate un'altra volta sto gym fits. Cioè nel senso che è chiaro che il McDonald's dei videogiochi tende a rispettare le regole che sono lo scontrino, che sono le normative e che sono le cose che ovviamente non possono essere fatte a favore del pubblico e via dicendo, al di là di quello che pensiamo noi dei vari GameStop o roba del genere, comunque loro in quanto catene rappresenterebbero una garanzia da questo punto di vista. Il problema è che come dice Pierpaolo, è che fino a che non diventano leggi. Ma è nel caso di una distribuzione digitale dove secondo me la distribuzione digitale, la giri con purtroppo per fortuna con l'autocertificazione, nel senso nel momento in cui tu ti registri certifichi di essere 18enne, poi non ho idea in che modo ci saranno dei controlli a campione, se ti beccano che uno ogni 100 deve mandare la carta d'identità e se non la manda, d'altra parte noi io intendo come multiplayer.com la parte dello shopping, noi ci sono una serie di acquisti, cioè alcune forme di proprio di acquisti, cioè alcune cose che vengono comprate che comunque si chiede la carta d'identità. Per esempio le console, solitamente siccome le console sono le cose che più facilmente vengono fregate perché sei d'accordo col corriere che dice che ha consegnato, in verità non ha consegnato, bla bla bla, ti garantisco che se ne vede di tutto di più, e sulle console ovviamente c'è una perdita enorme come negozio rispetto a un gioco, lì per esempio poi quando lo acquisti ti viene chiesta la fotocopia della carta d'identità, certo. Punto, cioè non lo aggiri. D'altra parte, cioè in casa se hai un minimo di computer e uno scanner, una volta che te la sei scannerizzata la copia insomma la tua carta d'identità la puoi mandare come ti pare, quindi non è questo grande impedimento digitale cosa. Sì, no, fine. come faccio? Cioè. No, ma ecco, io dico in questo caso invece tu no, anche perché ragazzi, il fatto, ecco, quando tu entri per esempio in determinati per esempio tante volte quando vedi i trailer magari di alcuni giochi, magari entri dentro al sito, ecco, come era esatto. Dragon Age, se non mi sbaglio. Esatto. E c'era il trailer e ti diceva quanti anni c'hai e tu gli potevi dire qualsiasi cazzata, no? Cioè, in realtà pure quello è un proforma che dovrebbe essere bypassato a priori, no? Nel senso è chiaro che io lo voglio infinita. Vedere. No, esatto, io lo voglio vedere il trailer. Quella è una cosa se c'ho 16 anni, non ti dico che c'ho 16 anni. Una cosa prepararsi al culo. Sì, lo so, però è di carta pesta sta cosa. Lo so, ma serve soltanto per loro, non per chi va a vedere. Ma io parlo qui di un altro livello di acquisto, chiaramente, non solo della visione del trailer, ma quando ci sono anche di mezzo dei soldi. Cioè, se tu hai accesso alla carta d'identità scannerizzata di tuo padre hai perfettamente ragione, purtroppo sei nel illecito fra mille virgolette, però e vai avanti. D'altra parte, cioè da noi per esempio in Italia c'è anche la differenza fondamentale che ogni volta che vai a fare un acquisto con la carta di identità ti chiedono quella con la carta di credito ti chiedono quella stronzata del documento, se lo fai online chi te lo chiede il documento? Cioè, ma chi è? Ma poi è una cosa sull'italiana, perché vai nel resto del mondo, a me non me lo chiedono manco con la carta di credito, nessuno ti chiede la carta, o meglio una volta ogni tanto con certe cifre. No, in America, a me capita in America, magari, che ne so, fai 10 acquisti su 2, ma secondo me proprio controlla il campione, su 2 ti chiedono il passaporto o la patente, insomma, il classico ID per dimostrare che sei in Irlanda, ma è uno ogni 10 acquisti, non ogni acquisto, cioè... devastante questa cosa. Io l'altra volta ho andato pure al supermercato e magari esci senza soldi e paghi, ti fa passare la voglia di pagare la carta di credito, ogni volta parti il documento, cioè spendi 8 euro al massimo, che ti sto fregando 8, cioè è veramente fuori di testa questa cosa. E allo stesso tempo online puoi comprare anche il computer da 1500 euro, e se hai il plafond nessuno ti chiederà mai la carta d'identità. Esatto. Ma forse certo, poi dopo tuo padre ti riempirà di mazzate, Non dico, dopo tuo padre ti riempirà di mazzate, esatto, perché qualcosa, sì, vabbè, lo sgama, insomma. No, quello sì, però dico, magari è più un problema legato all'Italia proprio, piuttosto che ad altri paesi dove magari c'è meno, insomma, si tende meno a cercare di raggirare o fregare, non lo so. Vedete, però c'è, ritorniamo un po' anche a quello che diciamo, mo faccio veramente, finirà sta puntata che scriveranno commenti: ah, sei un bacchettone di merda. In realtà io penso che ci deve essere sempre un minimo di controllo, no? Perché come con Matteo, no? Noi fino a che ci ha avuto 13 anni Facebook no? Cioè, perché Facebook no? Perché Facebook bisogna avere 13 anni, è una regola, rispetta la regola, no? E ok, quella c'è più o meno una giustificazione. Io conosco amici di Matteo che hanno le carte di credito prepagate, cioè nel senso che i genitori vanno alla posta, gli prendono la carta di credito, ci mettono 150 euro dentro e poi quello che ci fanno sono cazzi loro. E non c'è controllo su una cosa del genere, è una follia, capisci? Sì. No, ma su quello sono d'accordo, perfettamente d'accordo con te. Io anche faccio un altro esempio, la questione del cellulare. Anche a mia sorella non è stato dato un cellulare prima dei 12 anni. No, le bugie prima degli 11, adesso ne ha 11, adesso che va alle medie per sicurezza, per altre ragioni, ma le è stato dato. Ma lei aveva compagni di classe alle elementari che avevano dalla seconda elementare, terza, gli iPhone 4 con la connettività 3G, eccetera eccetera, cioè no, comunque non avevo gli iPhone, ma li hanno avuti dopo. Comunque avevano dei cellulari incredibili dati a dei bambini, ma proprio dei bambini. Quindi è chiaro che lì non è colpa del cellulare o del produttore del cellulare che non ti ha messo i blocchi, che è quell'altro. Se tu genitore è tonto, oppure ti fidi tanto di tuo figlio che però ha 8 anni, quindi mi chiedo anche che non cosa è c'è la da fiducia, fidarti. Non è la fiducia. Vabbè, non entrare, perché poi dopo se ne fregano. Cioè, veramente, ragazzi, è più facile ignorare che educare. Questo è un problema. Ah, quello sì, beh, educare è palloso perché costa energie, perché tu torni a casa, sei stanco dal lavoro, che mo mi devo mettere a discutere con me. Sì, esatto. Fammi vedere Call of Duty, esatto. E vai a rompere i coglioni. Comprati il film porno che sta lì su e fai quello che cazzo ti va, cioè, capisci? Cioè, il problema In questo caso, esatto, bisogna che siano le persone ad avere un po' di coscienza in più, non solo i videogiochi. Capisci, cioè, quello che voglio dire? Perfettamente. Cioè, non vorrei che si capisse il senso, non vorrei passare veramente per il becerone della situazione. Non credo. Penso che Simone, chi ti conosce un minimo, sa che non... sa che sei peggio. Sa che... Sì, poi comunque è un discorso molto fluido, ecco, lo vedi pure fra me e te, cioè comunque abbiamo due visioni, non dico opposte, però comunque un po' differenti sul problema, fra virgolette, poi problema, cioè nel senso, secondo me è molto interessante perché c'è questo dibattito proprio sulla luce, e questo secondo me dimostra in modo forte il fatto che è un medium giovane, cioè proprio il fatto che non si riesca ad avere una visione abbastanza univoca in merito a come trattarlo, come farlo capire al minorenne, come appunto affiancare il ragazzino, dimostra proprio il fatto che, cioè, noi stessi ancora dobbiamo capire bene, soprattutto dobbiamo capire le conseguenze, perché poi si potrebbe entrare nel solito discorso che è il primo medium interattivo, e quindi quando ammazzi a Call of Duty sei te che ammazzi spingendo il pulsante, quando vedi un film sei passivo, e quindi è diverso. Certo. Cioè là possiamo aprire la solita parentesi infinita su cui si fanno mille dibattiti su quella valenza un po' più, ecco, un vedi, pulsante. Questa cosa non l'abbiamo messa su come perché sempre il suo discorso, un pulsante da spingere ti avvicina di più a essere quello, certo, che prende l'implicazione, l'implicazione è la scelta, è chiaro, no? Sì, sì, è lì la questione, esatto. Poi tutto si risolve lì, che è quello che dovrebbe elevare il videogioco, perché, cioè, secondo me, rispetto agli altri medium, che lo eleva, anche se è immaturo e non ha, e ancora non sa dire belle storie, però per me lo eleva rispetto a tutti gli altri, ed è allo stesso tempo quello che porta, apre di più la porta a problematiche, perché appunto spingi un pulsante è come se tiri un grilletto, quindi comunque hai una serie di conseguenze che non è nel film, non è nella radio, nella TV, nel quotidiano, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, questo può essere visto anche come un bene, secondo me, perché comunque sì, ti responsabilizza. Infatti, cioè, infatti a me lo eleva, è quello, esatto, che lo rende, esatto, il medium più potente. Sì. E in questo caso, appunto, riguardo alla differenza, come nei film, in questo caso, c'è la violenza gratuita nei videogiochi. Nei videogiochi c'è quella proprio fine a se stessa, che non senza neanche una trama. È assolutamente gratuita. Sì, sì, sì. Tonnellate. Cioè, proprio creata per esclusivamente per far vedere della violenza, come per i film intrattenere. Sì. Secondo me assolutamente. D'altra parte, come dicevo prima, nei film, negli splatter, ci sono alcuni film dove è estrema la quantità di sbudellamenti o di esplosioni di crani rispetto a quelli che ti fanno vedere altri. Sì, la violenza gratuita, cioè, beh, ma è sempre una forma di espiazione, cioè di divertimento, quella lì, assolutamente. No, ma io non ero in senso di condanna, era più in senso di curiosità o di proprio di... In fondo, se ci pensate, abbiamo edulcorato in qualche maniera, abbiamo pulito, ripulito le nostre coscienze, perché invece di andare al Colosseo a vedere la gente che si squartava, in realtà, esatto, la mettiamo sotto forma digitale. Alla grande, la sostanza resta quella. Io penso che comunque la tendenza umana comunque allo scontro, alla violenza, anche tra virgolette alla cosa un po' barbara, al fondo un po' ce l'abbiamo, ce la portiamo, sì, sì, dietro, no Marco? Anche su Star Trek andavano a fare le cose, andavano a videogiocare nelle sale ologrammi, in atto le scazzottate ci scappavano, perché insomma poi alla fine la violenza è dentro di noi. Sì, ma infatti dico, meglio, cioè, se io ho la pulsione di investire la gente in macchina, preferisco farlo su Carmageddon o su GTA piuttosto che... No, però aspetta, cioè... aspetta, perché se tu dici una cosa del genere dai adito a quelli che dicono che allora quello che ha giocato a Grand Theft Auto, allora, esatto, c'è io non che credo, cioè, anche io non credo tanto alla funzione terapeutica, nel senso, io sono uno che, cioè, se c'hai la pulsione stai messo male a prescindere, esatto, se giochi al videogioco, esatto, o no, capito? Cioè, forse addirittura se hai la pulsione, forse in quel caso veramente il videogioco ti può stimolare, se tu hai già la pulsione, secondo, certo, me veramente amplifica, no, cioè, nel senso, in realtà, ecco, se io ho questa sensazione, mi dà piacere acciaccare uno e lo acciacco nel videogioco, chiaramente quel piacere prima o poi non mi basterà più. Ma non è il problema al videogioco, il problema a monte, no? Nel senso, sì, se tu sì, che sei sì, un assassino sì, nato, cioè nel senso che c'hai un problema che ovviamente è fuori controllo. Ma quindi, secondo voi, non è possibile che il videogioco possa in qualche modo compensare a queste pulsioni molto barbare, diciamo, molto sadiche? No, dipende. Secondo me dipende. Nel senso che, secondo me, se sono squilibri mentali, io proprio parlo da una persona veramente che non sa niente, non sono psicologo, non sono psichiatra, nulla di nulla, secondo me, dal punto di vista personale, credo che se hai squilibri mentali di quel, cioè veramente, ecco appunto perché pensi sempre che vorresti investire uno dal vivo, secondo me lì te lo amplifica, te lo alimenta, non te lo riesce a smorzare, secondo me ti va a smorzare una serie di cariche di violenza, cioè una cosa probabilmente che è un po' più insita, come diceva prima Simone, un po' più insita nell'umano, c'è, cioè, una certa ricerca di violenza, dell'atto appunto esemplare di violenza, forse invece quello, secondo me, te lo scarica, ecco, il partitone, cioè al God of War, al Call of Duty, ti scarica un certo tipo di tensione che potrebbe sfociare nella violenza e ti potrebbe stimolare appunto a vedere le bestie, i gladiatori che si menano con le bestie nel Colosseo e provarci godimento. No, che poi basta la parola a Marco, cioè in realtà. Mo, siamo onesti, quante volte può essere capitato che c'hai quella davanti che mo adesso scendo se c'è una spranga e spacco la macchina, no? In realtà c'è uno sì, un giorno no, insomma. No, magari così, però può succedere che c'è un momento in cui uno c'ha veramente un attacco di ira dovuta da tanti fattori, perché viviamo una società stressante, perché la gente è diventata particolarmente stronza, tutto quello che vogliamo, no? Può succedere, no? E fortunatamente poi viviamo in una società, a differenza degli Stati Uniti, dove non è facile andare in giro con una spranga, insomma. È più facile andare con la pistola, è più facile essere arrestati, insomma, se vai in giro con una spranga. Però ecco, il problema è che il nervosismo, la rabbia o tutti questi fenomeni qui sono comunque fenomeni naturali che in qualche maniera sono più o meno sotto controllo. La violenza è diversa, cioè la violenza quando supera il limite dal fatto io faccio del male a quella persona lì o lo vado a ficcare sotto con la macchina o x cosa, qualsiasi cosa possa essere lì, prescinde da qualsiasi cosa che fai, prescinde dal fatto che videogiochi o prescinde dal fatto che vedi troppi film desparatori o qualsiasi altra cosa che possa essere, insomma questo è proprio un problema che ti porti dietro tu. Al contrario, invece, ho letto da qualche parte, adesso non ricordo dove, pare che in realtà all'uscita dei Call of Duty si attenuano i crimini in determinate zone degli Stati Uniti. Figo. No, è quello che dico io, cioè, in questo caso il videogioco non può avere una funzione terapeutica, tra virgolette, o meglio, di appunto di abbassare quel bisogno di violenza, tra virgolette, che in modo da favorire una società migliore, cioè che tu utilizzi il videogioco per appunto per sfogarti e tendi a essere meno irascibile, meno violento, magari tu sei una... questo dipende sempre da quanti, cioè da che tipo di pazzia sì, no, ecco, allora senza parlare di casi estremi, se hai una diciamo una tendenza normale a incazzarti, magari quello è una valvola di sfogo e va bene. Posso anche capirlo, che magari invece di andare in giro a prendere a calci le macchine, stai a casa e ti fai due ore di Call of Duty, posso pure capire. Però certo, se c'è già delle tare tra il cervello, diciamo che ti rimanda l'inevitabile. Sì, anche perché poi in realtà lo sfogo, cioè nel senso qualsiasi, cioè tirare due pugni al sacco o sfogarsi a farsi una corsa Need for Speed, cioè tutto, qualsiasi cosa che ti fa scaricare adrenalina in qualche maniera, può essere pure una sigaretta, no? In realtà va bene. Poi ha detto, cioè ho letto quell'articolo, insomma, in particolare adesso non ricordo né dove l'ho letto e né se lo ritroverò facilmente per metterlo nelle note dell'episodio. Però in realtà ecco, cioè, io torno a essere convinto di quello che diciamo con Pierpaolo, insomma, che a prescindere dalla valvola di sfogo, cioè non è che se tu sei un pazzo omicida Call of Duty o GTA ti fa passare la voglia di ammazzare la voglia, sì, esatto, magari mi piacerebbe, no, ma magari te la sposta avanti nel tempo, diciamo. Esatto. Forse non l'aumenta neanche, non lo so, cioè probabilmente no, è chiaro che a quei livelli probabilmente tu mantieni, cioè una volta che sei oltre la linea della sanità mentale non ti cambia niente giocare a Call of Duty, non giocarci, probabilmente farai le tue stragi lo stesso. Ricordo appunto la storia della critica di quel pazzo norvegese che aveva ammazzato tutti quei ragazzi nell'isola, tra le varie cose lui si era allenato, ma quella è una cazzata, ragazzi. Ma quella è una cazzata, ragazzi, cioè quello è un pazzo fanatico. Ha fatto una cosa da pazzo fanatico, di sicuro, cioè, non è che Call of Duty l'ha reso più rapido, più veloce, più prestante. A lui piaceva Call of Duty perché già sapeva fare. Giocava di conseguenza, come stavi dicendo tu per prima dei film, cioè vedi un sacco di persone che fanno botte, vai a prendere botte, al primo pugno cambi idea, ma immediatamente, perché il problema è che probabilmente non ci sono abbastanza persone che si sono prese un bel pugno in faccia, perché esatto, se no questo è il dubbio, no, probabilmente il discorso anche del tizio appunto norvegese, dicevi te, è che adesso ricordo il nome, lo ricordo perfettamente il caso, è che era, cioè è un ragazzo, cioè un ragazzo squilibrato, ma un ragazzo con le abitudini dei ragazzi di oggi, e quindi Call of Duty, essendo il gioco più giocato al mondo, cioè alla fine per un calcolo probabilistico va a finire che si gioca anche il serial killer. Probabilmente lui la mattina va fatto colazione con i cereali, quindi cos'è, colpa dei cereali che ti cazzo fanno cazzo di mangio anche io. Il discorso è quello, diventa un calcolo probabilistico, cioè Call of Duty ci giocano 30 milioni ogni anno, ne vende di copie, prima questo, o poi finisce anche questo, sono stra d'accordo al mille per mille, non so. Pierpa, poi se, dimmi, vai. Ha senso secondo te in maniera contestuale, stilistica, artistica, insomma, il sesso nei videogiochi? Sai bene tu la quello mia ha risposta, sempre eh? Senso perché ne abbiamo parlato a lungo su quest'ambito qui. Beh, dai, ora vai, siamo in ballo, balliamo. Sì, per me ha senso, sì, ha senso, ha senso il sesso, questo scioglilingua, assolutamente sì, nei videogiochi, ma deve essere contestualizzato in modo perfetto. E siccome vi anticipo nella cosa che poi, nella domanda che verrà dopo e che Stefano farà dopo, per me il sesso nei giochi BioWare è assolutamente merda, cioè proprio lì non è assolutamente contestualizzato, è meglio se non c'era, fondamentalmente, perché non aggiunge assolutamente nulla, è squallido, probabilmente in un diciottenne o un sedicenne che ha preso Mass Effect, che magari non ha ancora fatto sesso, gli trasmette anche un'immagine orripilante del fare sesso, probabilmente, quindi ti dico no, in quell'ambito no. Se invece viene strutturato bene, e tu sai che io ho sempre portato il caso di Heavy Rain e un punto anche di The Witcher, assolutamente in quel caso ti dico sì, perché il sesso fa parte delle storie, fa parte della vita umana, quindi può far parte di storie belle, e quindi è giusto che venga rappresentato, però deve andare d'accordo con la storia che viene raccontata, deve entrare in modo naturale, non deve essere una cosa infilata lì perché ti piace che vuoi mostrare due tette, quello non significa niente. BioWare, appunto, che come sanno perfettamente gli ascoltatori di Dietrologia Videoludica, noi non abbiamo mai parlato su Dietrologia Videoludica. No. Vai, proprio vai, vai. Ringraziamo vai. Pierpaolo che anche questa volta ci ha fatto guadagnare il nostro gettoncino della BioWare per Mass Effect, allora, perché ogni volta che viene citato noi prendiamo una percentuale. Ma proprio mai. Comunque io, guardate, facciamo una cosa, perché io qui vedo, insomma, ci sono anche alcuni punti, ma insomma, in buona sostanza, raggruppiamo tutto in una discussione finale. E via, perché insomma siamo andati già belli longhi, belli anche per i problemi tecnici, insomma, che ci portiamo dietro. Partiamo da quello che ha detto Pierpaolo, cioè nel senso che secondo lui sia la violenza che il sesso, però in questo specifico caso il sesso, può essere funzionale all'arricchimento di una storia in senso maturo, e io su questo sono d'accordo non al 100%, ma anche di più. Il problema di fondo è che purtroppo ancora non è facile una buona rappresentazione del sesso all'interno del mondo dei videogiochi, anche se tante cose sono migliorate, no? Cioè, nel senso, per esempio, le scene di sesso da Fahrenheit a Heavy Rain, già siamo cresciuti, no? Sì, decisamente. Però ovviamente poi abbiamo questo ostacolo di quella casa che abbiamo citato prima, di cui non parliamo mai, che io mi pongo il problema perché, come hai detto tu, non soltanto quello può essere deleterio, perché in realtà banalizza, cioè lo banalizza a tal punto da essere controproducente. Non è controproducente agli occhi esterni vedere una cosa, cioè, perché io penso a mia moglie, no? Mia moglie magari ha visto, che ne so, una delle scene di Mass Effect e dice: ma che è sta cazzata, ma che è stata a giocare, roba da maniaci, no? La stessa identica cosa che è successa a me, mi imbarazza più far vedere cosa che fa sesso, che ti sale sopra la vestita come si chiama, Amanda, sì. Neanche mi ricordo con no Amanda ma Amanda, Miranda, sì, come Miranda, si Miranda. Cioè è imbarazzante, proprio mi crea imbarazzo molto più che vedere un film giustamente con due che fanno sesso, piuttosto che, come ti avevo raccontato appunto nell'altra puntata di Heavy Rain, che l'ho giocato con appunto con la mia ragazza in gran parte, dove è naturale, cioè è realistico, è naturale, crea pathos, è costruito bene. Lì in quello in Mass Effect è veramente imbarazzante, cioè proprio per l'umana specie proprio. E poi in Mass Effect, ma in Dragon Age anche peggio, no? Sì, tutto. Dicevamo la puntata che abbiamo fatto dello speciale su Dragon Age, che c'è, come si chiama lì la strega lì? Morrigan che è senza reggiseno, però quando viene a fare sesso con te si mette reggiseno perché era una cosa molto sexy, cioè nel medioevo era una cosa arrapantissima, mutandoni e reggiseno, quel vedo. Incredibile. Ma dai, per piacere, perché poi in realtà ecco perché noi abbiamo puntato molto il dito su questo, perché anche questo rientra in questa ricerca di dare dignità e valore proprio anche narrativo al videogioco. Poi alla fine ci troviamo di fronte a prodotti come questi, che in maniera insensata, poi, perché in realtà non ne capiamo, cioè io, ecco Pierpaolo, spiegami un attimo, secondo te qual è la ragione di inserire scene e censurarle, tra virgolette, perché poi censurarle è pure troppo dignitoso, perché fare scena in quella maniera lì? Qual è il senso? Che cosa hanno voluto dimostrare? O dove volevano arrivare e perché lo hanno fatto in quel modo là? Probabilmente volevano arrivare che nella tradizione BioWare, perché comunque è un po' una tradizione dei giochi di ruolo, la componente amorosa della conquista del partner di gioco, c'era pure in Baldur's Gate, cioè c'era da sempre, quindi secondo me è parte integrante del genere del gioco di ruolo. Quindi comunque dicono dobbiamo mettere il filone amoroso, il fatto che puoi conquistare, il massimo della conquista come lo raggiungi, ovviamente lo raggiungi con rapporto sessuale nel punto di vista BioWare. Fortuna nella vita reale non è sempre così, però dove la gente si veste per fare sesso, esatto, nel punto massimo raggiungi posso avere rapporto sessuale con quella con cui ci sparo e poi dopo ci faccio il dialogo fatto bene. Cioè a me fa proprio cagare come lo raggiungi nei giochi BioWare ormai, come raggiungi cioè già riesci a capire dei dialoghi che andrai a finire sulla scena di sesso, e già quella cosa mi fa veramente cagare. Lo metti perché comunque appunto fa parte della cosa, e poi probabilmente ti autocensuri perché comunque anche questo, però il videogioco è soltanto l'ennesimo media che lo dimostra. Tutti appunto i media, il sesso si raggiunge per ultimo, cioè anche nel cinema, nei film, cioè vi ricordate i film degli anni 60, i baci che si davano, i film degli anni 70 eccetera, però film di guerra, di sparatori, dei combattimenti, c'erano già state centinaia e centinaia e centinaia per arrivare, adesso non ho idea, ma per arrivare alla prima scena di sesso in un film ci si sarà arrivati probabilmente 20 anni o 30 anni dopo rispetto alla prima scena di un uomo che uccide un altro uomo dentro un film. Non, diciamo a livello di grande pubblico sì, ma a livello di cinematografico proprio esatto, strettamente non è proprio così, però... Hai ragione, sicuramente, però diciamo a livello del consumo di massa, esatto, a livello commerciale ci si è arrivato assolutamente più tardi. Probabilmente il videogioco è uguale, nel senso che ci vuole un po' più di pelo sullo stomaco probabilmente a fare un videogioco in cui c'è, non lo so, un rapporto orale piuttosto che un rapporto sessuale fatto bene, completo e tutto quanto, rispetto a mettere, ecco, il tizio di colore che ti arriva davanti, gli tiri un machete in testa all'inizio di Call of Duty. Probabilmente c'è sempre il tizio di colore, esatto, che gli arriva il machete in testa. E probabilmente cioè il concetto è questo qui, però lo vuoi mettere perché lo vuoi mettere, ma ti censuri perché purtroppo non vuoi essere il primo su cui gli si porrà il dito, magari anche per preoccupazione, ci può anche stare, che invece di parlare di Mass Effect 3 come la più grande saga fantascientifica eccetera eccetera eccetera, tutti puntano sul dito, ah è il primo dove si può fare sesso con quella tutta nuda, che figata, vedete la sta messa a 90, perché tanto poi le discussioni che finiscono sono quelle, che poi non è vero, no, sì, sto dicendo nel senso, magari avevano quella preoccupazione, allora hanno preferito fare una cosa super casta. Per me in quei casi, per me, per Paolo, è molto meglio farlo implicito, nel senso che ti fa capire che stai per andare a fare sesso, ma non si vede né si sente niente. Giusto. Stop. Fine. Giusto. Sai che l'hai fatto, fine, tutti contenti. Ma quelle scenette lì, vestiti uno sopra l'altro, cioè veramente imbarazzante proprio, totalmente proprio. No, ecco, io penso che in primis io dico che io per fare sesso mi vesto. Sono anche io questo pezzo. Vabbè, ma a parte il fatto che raccontiamo, insomma, mettiamo di sborro, Mirio. Non vorrei parlarne. Raccontiamo di come tu giochi a Dragon Age. Lo ripeto per gli ascoltatori, ma anche per Pierpaolo. Conosco l'aneddoto, quindi lo ascolterò con grande gusto. No, praticamente io tendo a creare in tutti i giochi, come Dragon Age, come anche Dragon's Dogma, dei personaggi estremamente brutti, tendenzialmente dei nani deformi, a cui. Che poi dei vecchi, i formi vecchi, che poi chiamo tutti Sborromir. Scusa, e che finiscono a fare sesso con altri. Scusa, prima del Signore degli Anelli, come li chiamavi? Non lo so, perché quando sono nato io già era parte della cultura popolare il Signore degli Anelli, quindi... per me sì perché me lo leggeva mia madre da piccolo, okay, quindi okay. Forse è quello che mi ha si spiegano tantissime cose, quindi io, tu lo sai, ti voglio bene come fratello, qual è il gusto, perché ti piace vedere i nani deformi vecchi che fanno sesso con la figona di turno? Non lo so, allora sarà che sicuramente c'è una parola che definisce anche questa ossessione, non la conosciamo, vecchismo. E pensa che la prossima volta che Pierpaolo ti vede su TeamSpeak per fare una domanda su multiplayer.it podcast sicuramente te cassa subito, no, prima racconterò questa cosa, uomo, e poi farò fare la domanda. No, allora, che il grande pubblico sa. Penso che sia dovuto al fatto che effettivamente proprio la situazione ha talmente poco di sessuale, di eccitante, che tanto vale buttarla in caccia piuttosto che... Ah, tu dici, nel senso è dissacrante, esatto, atteggiamento dissacrante. Cioè, nel senso, per me è tanto, allora, vedere il mio avatar, chiamiamolo così, alto, bello, con gli occhi azzurri, eccetera, eccetera, che poi fa queste scene di sesso imbarazzanti, effettivamente imbarazzanti, cioè a questo punto mi faccio... rendo ancora più imbarazzante. Esatto, cioè mi faccio più risate, certo. Tanto non è che... È vero. Ci può stare. Vabbè, hai recuperato, diciamo, dalla neve. Sono salvato in corner, ma più o meno penso che sia effettivamente la prima volta che ci rifletto, perché non mi era mai capitato, e certamente lo faccio a basta. Hai fatto ottimo. Perché dietrologia serve anche a questo. Va bene, ragazzi, facciamo un giro finale di opinioni. Scusami, Simo, voglio fare una domanda. Pensa il giorno in cui farai una partita, un gioco BioWare, facendo il tuo nano deforme vecchio, e BioWare avrà fatto una scena di sesso epica, fatta benissimo. Fantastica. E tu lo sigherai. Esatto. Devi ricominciare tutto il gioco. No, il punto è che tendo anche a cercare partner, tipo partner omosessuali. Vabbè, l'abbiamo detto, non aggravare la situazione. No, mi piace fare le cose senso, brutte, per quanto vabbè. Possa essere fatta bene, sarà ancora più brutta. Può solo peggiorare. Ha detto che poi finisci su un giudizio di valore che i nostri lettori, almeno i nostri del podcast nostro, ci ammazzano quando facciamo giudizi di valore sui rapporti omosessuali e tutto il resto. No, ma per me figurati, io non ci mancherebbe, più per il divertimento di vedere due nani brutti e vecchi che si accoppiano, poi per il fatto che siano omosessuali. Ma tanto Pierpaolo, dico, tanto Pierpaolo considera che il pubblico è quello, il nostro in piccolo, ma tanto quelli sono poverino. C'è gente di un certo livello da entrambe le parti, dai, no? Sì. Me, ad esempio, a voi, quindi. Certo, perché ovviamente non ti ho detto, se ti farà rientrare prima lo racconto. Non mi farò più vedere. Ormai cambierà il tuo nick su multiplayer in Boromir, quindi non mi farò più vedere. No, quindi vabbè, ragazzi, facciamo un giro di opinioni finali, insomma, su quello che abbiamo detto, insomma, se vogliamo esprimere qualcos'altro, così andiamo un po' alla chiusura. Tra l'altro mi scuso subito con Morgan, però veramente Morgan, tu lo sai, ti vogliamo bene e tutti i tuoi commenti sono fantastici e sono soprattutto utili, perché anche grazie a quelli, sia in dietrologia che in archeologia videoludica, noi siamo cresciuti molto. Però è troppo lungo, mi dispiace, non ce la faccio. Però ci dobbiamo fare la puntata apposta per esatto. Non ce l'ho fatta neanche a leggermelo e a sintetizzarlo, insomma. Però vabbè, chi vuole si va a leggere l'intervento che ha fatto ovviamente Morgan sulla puntata precedente, che era su Dragon Age, appunto. Quindi vabbè, iniziamo da Pierpaolo. Allora, una considerazione, cioè, tipo un tirare le somme della puntata? Sì, diciamo, ecco, se vuoi esprimere ultime considerazioni, qualcosa che magari ti è sfuggito. Allora, no, a me sicuramente piace, tra l'altro pensavo si parlasse, diciamo, in modo più incisivo del discorso proprio della violenza, o comunque del parlare male del medium videogioco in quanto troppo violento e tutto quanto. Invece mi piace che poi alla fine l'abbiamo abbastanza tono laterale per fare discussioni anche soprattutto sull'educazione e così via. A me è una cosa molto importante che si parli appunto sul come far capire il medium videogioco a chi non è troppo dentro al medium videogioco. Secondo me quella è una cosa molto importante. Questo perché, Pierpaolo, noi lasciamo parlare di videogiochi la gente che di videogiochi ne capisce. Noi dei videogiochi non ne capiamo, nel senso che noi siamo solo dei videogiocatori. L'esempio di Stefano del suo nano ti fa capire, insomma, con chi ha a che fare. Facciamo dietrologia su quello che sono ovviamente delle opinioni anche di carattere generale, no? sul mondo dei videogiochi e sull'industria, così come l'abbiamo fatto anche sugli addetti lavori, sui giornalisti. Abbiamo fatto, insomma, puntate di carattere generale, sempre approcciandole in questo nostro modo di vedere un po' le cose, che poi, insomma, secondo noi è anche una volta ogni tanto una chiave di lettura leggermente diversa dallo specifico parlare proprio di videogiochi, insomma. Quindi ecco perché ci tenevo molto che in questa puntata in particolare c'eri tu, perché so quello che pensavi e quindi ne abbiamo già parlato, e mi faceva piacere riconfrontarmi con te, insomma. Era questa la cosa che ed è stata bella, anche una bella puntata, sì, una bella chiacchierata, super super piacevole. Quindi sì, nel senso nel tirare le somme, appunto, è secondo me i punti di vista, come ho detto prima, i punti di vista abbastanza differenti ma tutti super interessanti, e che fanno riflettere su, appunto, la gioventù del nostro, cioè del, io dico nostro comunque, dal punto del medium videogioco, che ha un potenziale enorme. Io continuo a dire è fortemente immaturo, è immaturo nella valutazione che hanno gli altri del medium, ma è immaturo internamente, appunto il discorso del sesso, il discorso delle storie. Io continuo a porre, anche te Simo te l'avevo detto anche nell'altra puntata, continuo a porre l'accento sulla mancanza di storie sensate. Questo è un grandissimo malus del videogioco, grandissimo, cioè nel cinema ci si è arrivati molto prima a raccontare storie interessanti, nel videogioco continuiamo a faticare. Probabilmente sarà un problema del dover dare interattività, non ho idea, però resta il dato di fatto che ci sono, cioè che è ancora molto difficile trovare belle storie. Si trovano perché ci sono, ma è ancora molto difficile trovare belle storie nel videogioco, e questo ovviamente ha ripercussioni su tutto, sull'apprezzamento, sulla necessità appunto di infilare sesso, la necessità di infilare violenza, e nell'apprezzamento nel prossimo. Io cioè piano piano, ovviamente vivendo con una ragazza, con una donna che bene o male mi vede giocare dalla mattina alla sera, mi sente dare videogiochi, alla fine piano piano ci si è avvicinata necessariamente. È ovvio che ancora oggi incontra tantissimi ostacoli nel videogiocare, in primis nel darle una cosa interessante da giocare. Secondo me proprio anche il pubblico femminile fa ancora fatica ad essere coinvolto in modo interessante in videogiochi, io dico seri fra virgolette, senza voler denigrare i vari Just Dance, Dance Center e compagnia bella, che vendono all'infinito tra l'altro, ma che per me purtroppo non sono videogiochi di tipo serio, che alla fine ti hanno trasmesso qualcosa, magari ti hanno fatto stradivertire ma non ti lasciano nulla. E questo comunque evidenzia appunto la gioventù, evidenzia la gioventù di questo medium, e secondo me ci potranno essere un sacco di, ci sono tantissime possibilità su farle evolvere in modo interessante. Sì, che poi ti passo la parola a Stefano, poi pure a Marco, se vai a vedere in realtà grazie al cielo un po' ultimamente, con tutti i dovuti buchi ovviamente del caso, perché appunto come vi ho detto ancora narrativamente è in struttura questo medium, però abbiamo visto, ecco, magari L.A. Noir, che insomma alla fine ci ha provato, no? Per certi versi forse non c'è riuscito fino in fondo, Heavy Rain stesso in qualche maniera, e ultimo, visto che ne abbiamo parlato pure con Stefano recentemente anche per cazzi nostri, The Walking Dead, che narrativamente secondo me rimane il gioco dell'anno, no? In qualche maniera, assolutamente, e se lo dice Marco il distruggitore qua accanto a me, che a lui non gli piace un cazzo, vuol dire che è stato bello, insomma. Io mi gioco tutto ma non mi piace un cazzo. Io mi gioco tutto perché comunque ecco, cioè nel senso, e questo un po' ritorna al discorso che facevamo a suo tempo con Pierpaolo, quanti giochi alla Heavy Rain ti giocheresti? Sì, è vero, probabilmente proprio alla Heavy Rain forse me ne giocherei uno ogni morto di baba. Però se poi alla fine escono esperimenti ibridi, anche sperimentazione dal punto di vista anche indie, diciamo così, poi alla fine se la storia è bella vale la pena, no? Nel senso, ci passi sopra. Comunque voglio dire, The Walking Dead è stato un gran bel esperimento, un bel cazzotto stato, insomma, molto più di quanto David Cage, che lo ha proclamato centinaia di volte, ci sia mai realmente riuscito a fare, insomma, perché insomma The Walking Dead mena, pesante, mena abbastanza, Stefano. Sì, allora, giocato anch'io, sono, diciamo che la bambina muore alla fine, no? La bambina muore sempre in tutti gli episodi, muore, no? Ed è colpa del maggiordomo, tra l'altro, quindi no, ecco, in effetti, allora, parlando di Walking Dead, forse rappresenta un po' quello che era. La struttura è molto semplice, in realtà è poco più che un misto tra una vecchia avventura testuale, no, non testuale, avventura grafica e una storia a bivi, quindi in realtà probabilmente la strada che percorre è già stata battuta, probabilmente, sicuramente. Sì, anche se qualche tentativo di... Però sì, risulta comunque nel suo mix di cose, risulta nuovo, risulta particolare perché... Non è un Gemini Rue con il proprio con la struttura classica alla Monkey Island, è più una cosa moderna, cioè può essere usufruito come prodotto moderno pur mantenendo certi canoni, e questo secondo me è il punto di forza di The Walking Dead, è questo che lo porta avanti rispetto ad altri giochi, pur non essendo un titolo AAA, ecco, cioè non, sicuramente per fortuna da una parte, perché comunque ha avuto il coraggio di fare cose che titoli AAA magari non fanno, purtroppo, perché tecnicamente se avesse avuto un motore grafico, insomma, degno, un motore grafico, se avesse avuto un motore grafico. Quindi sì, per quanto riguarda l'episodio, la puntata, no, a me fa sempre molto, molto piacere, mi diverto sempre a disquisire su queste cose, anche se poi finisce che mi do la zappa sui piedi raccontando aneddoti come quello di prima. Che ti fanno perdere qualsiasi tipo di dignità umana, sì, di esatto, credibilità. Cioè, credibilità tendenzialmente, quella è stato un grosso problema. Volevo riprendere velocemente il punto di Pierpaolo. In effetti, tu stavi dicendo, io mi trovo nella stessa situazione, cioè quando mi trovo a dover dire alla mia ragazza magari se vuol giocare a qualcosa, io non so a che gioco giocare per l'Xbox, a che cosa farla giocare, perché tolti i titoli come Just Dance eccetera eccetera, e che cosa puoi giocare con io ti propongo di vestirti femminile. Da nano e di abbracciarla, di abbracciarla vestita, no, sta venendo un senso di raccapriccio. No, vestito da nano, cioè come sono normalmente, quindi d'altronde sei l'uomo che non viene né dal nord né dal centro né dal sud. No, io vengo dal Salvaggio West, esatto. Ricordate. No, quindi effettivamente anche questo, al di là dei problemi di cui stavamo parlando prima, quindi di sesso e di violenza, che sono cose che si possono superare, quello non è che abbiamo qualche meno mazione che non permette di vedere una cosa che dal pubblico femminile, che non permette di vedere una cosa dove ci sono delle scene di sesso o di violenza. Il problema è proprio il target che viene colpito, non so neanche se sia possibile colpirlo in maniera trasversale, perché non si può passare tutta la vita a farla giocare a Puzzle Bubble, che è notoriamente il gioco preferito da qualunque ragazza, e però magari non è neanche possibile farla appassionare a un Gears of War, ecco, o a un God of War. Allora, questo anche nel cinema, cioè nel senso, esatto, mia moglie piacciono, esatto, cose bravissimo. Bravissimo. Ma nel cinema forse è più facile trovare un punto di incontro, cioè ma dipende molto dalla tolleranza della donna, sì, che hai, sì, accanto, sì, no, chiaramente secondo me. Guardi il singolo caso, ci sono donne che magari non piuttosto che giocare a Puzzle Bubble si tagliano un braccio, sì, e preferiscono invece tutta la vita giocare appunto a Eleanor o all'esperienza hardcore single player, quella proprio classica da videogiocatore brutto, sporco e puzzolente, come me, sì, lo so, secondo me ci sono un po' di paralleli, nel senso che io contraddistingo, io solitamente faccio una distinzione ben precisa, che è il gioco che posso giocare con lei accanto e il gioco che non posso giocare con lei accanto, perché secondo me ci sono, nel mio rapporto con Eliana, con la mia ragazza, è che salutiamola, esatto, ciao. Salutiamo, tra l'altro, che adesso vi vorrebbe uccidere, perché io sono qui che sto registrando questo podcast dicendo guarda, durerà un'oretta e probabilmente si starà impiccando, la troverà impiccata sul divano. Ci saranno delle ripercussioni, chiaramente, no? Sì, probabilmente per almeno un paio di settimane, altro che BioWare e le scene di sesso vestiti. grande Pierpaolo, tutto ciò che vedrai sarà solo roba da BioWare, che è ancora, esatto, peggio, esatto. A dormire col pigiamone. No, dicevo, scherzi a parte, il discorso è questo qua: ci sono una serie di titoli che c'è esperienza, c'è piacere quando lei, la persona, ti sta accanto e ti guarda giocare, che è anche quello che un po' può funzionare con il cuginetto, con magari la persona non avvezza al videogioco. Ecco, ci faccio rientrare il discorso di Heavy Rain, ci posso far rientrare un discorso di spero per esempio del prossimo Tomb Raider, piuttosto che un discorso di titoli che hanno una bella componente di trama, una bella componente narrativa che si va ad affiancare allo spara spara corri corri, quindi riescono a mitigare. Ci sono una serie di titoli invece dove, cioè, che dimostrano con violenza che il videogioco è ancora estremamente sessista, è comunque un medium estremamente maschio per maschi, purtroppo, perché la stragrande, secondo me il 99,9% dei titoli AAA sono titoli prettamente per un pubblico maschile, come bene o male avviene per gran parte del cinema, dove la maggior parte dei film molto grandi sono o solo per uomini o al massimo per uomini e un po' di donne che li accompagnano, insomma se li portano dietro, diciamo. Per cui faccio un po' fatica a risponderti. Io ho la grande paraculata che dico sempre, tutti i giochi della Lego funzionano benissimo perché ci giochi in cooperative. Ecco, il platform secondo me funziona benissimo con la donna, il Mario, il Little Big Planet, i vari Lego e così via. il pensiero di io che entro dentro casa e trovo Eliana che sta giocando a Gears of War piuttosto che Hitman Absolution piuttosto che Far Cry, proprio la cosa più lontana che io possa concepire, proprio in assoluto, faccio fatica. Oppure un'altra cosa che trovo nelle ragazze, in un gruppo di donne, un gruppo di ragazze che magari lavorando così mi è capitato di conoscere, è la parte competitiva. Conosco un sacco di donne che non hanno giocato, dico una stronzata, conosco alcune ragazze che non giocano magari al single player di Call of Duty o di Halo, ma sono delle super giocatrici del multiplayer, perché gli piace la parte competitiva, le piace loro la parte competitiva. Ti piace per quello la gente, quando mette... Esattamente, quella lì è la cosa. Però proprio il singolo da soli ci giocano, secondo me veramente è molto limitato ancora il videogioco, molto molto. Quindi praticamente giochiamo al gioco del Dottor Who tutti quanti? Per forza. Marco? Per forza. Abbiamo appreso velocemente che il videogioco è ancora immaturo, che sta ancora crescendo, che stiamo ancora crescendo noi insieme ai videogiochi, quindi stiamo ancora imparando ad utilizzarlo. Probabilmente fra due o tre generazioni ci riusciremo, ma sarà già superato il videogioco. Abbiamo imparato che comunque... i nani fanno sempre una brutta fine nel mondo BioWare. È rimasto belle cose impresse a sta puntata. Vi ho dato il cazzotto finale. Tempo guadagnato, tempo assolutamente che avrei potuto dedicare a videogiochi violenti, perché ovviamente tra l'altro sono quelli si sono. No, ci vuole una presa di coscienza collettiva da parte del mondo del videogioco e da parte di chi ne usufruisce. Secondo me questo è la base di tutto per rendere questo media più maturo e più usufruibile da tutti. Cioè, abbiamo tutti solo da guadagnarci, quindi mi chiedo perché non farlo. Comunque ho conosciuto, avevo un collega, tanto per riunirci, per ricollegarci a questa cosa, della violenza ai bambini, che aveva un figlio di 2-3 anni che giocava al gioco del padrino. Sì, lo faceva giocare, beh, il bambino lì, quando vedeva le guardie, ma anche quelle vere, cacca faceva, una cosa molto bella. Certo, stai sul serio. Sto dicendo assolutamente sul serio, però è lo stesso collega che avresti potuto tranquillamente trovare su bordi della strada mentre picchiava un altro. Ma e anche questo è vero. Ma colleghi, che c'hai? Io un ambiente lavorativo, direi. L'ambiente, sì. È andato via prima, ovviamente. Allora, a questo punto ringraziamo e salutiamo Luigi Marrone, anche se non è stato presente prima in chat, insomma si è scusato, ma probabilmente gli è sfuggita la mail. È arrivata la sua versione fantasma, però attenzione perché qui... E ringraziamo ovviamente Stefano che con me conduce sempre questa trasmissione. Grazie, ringraziamo chiaramente anche il mitico Marco Gualdi, il distruggitore. Inevitabilmente ringraziamo infinitamente Pierpaolo per aver insomma dedicato il suo tempo a noi, mo al di là del piacere per aver dedicato il tempo a tre mentecatti. il piacere che ci può avere di fare comunque è sempre tempo dedicato e il tempo, essendo una cosa preziosa, va sempre ringraziato. Pierpaolo, no, io vi ringrazio a voi infinitamente perché comunque siete una compagnia splendida. Poi vabbè, Stefano in parte lo conosco, te Simone abbiamo fatto pure altre puntate, è stato sempre un grande piacere. Marco non mi era capitato di conoscerlo, l'ho conosciuto adesso, quindi brutta mi ha fatto molto brutta piacere. Cosa, no, mi super divertente, lo sai che se gli argomenti sono interessanti, ma anche se non lo sono, se c'è semplicemente voglia di chiacchierare, io vengo sempre con grandissimo piacere proprio. Vabbè, quindi insomma ci saranno altre occasioni, grazie al cielo. Abbiamo due indicazioni anche, dopo, se uno vuole risentire quel simpatico cappellone di Pierpaolo, lo trova su... Allora, intanto Pierpaolo lo leggete, lo vedete e lo ascoltate su Multiplayer. Sai che coglioni! Se non lo potete sbagliare. A volte anche contemporaneamente, quindi... Esatto. Perché è chiaro, io per esempio, se seguo la super diretta, non è che sto appiccicato... lì a guardare proprio sempre, e quindi mi vado a leggere anche le altre cose, quindi alla fine insomma sì, è quasi contemporaneamente. Sì, io anche le foto sotto al cuscino di Pierpaolo ad esempio, cioè, voglio tenerlo sempre con me, quindi. Io qua tra nani e foto mi preoccuperei. Allora, ringraziamo tutti quanti gli amici di Dietrologia Videoludica. Ricordate www.dietrologiavideoludica.it è il sito di riferimento, dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail di riferimento, Dietrologia Videoludo, se non sbaglio, sì, è il nostro Twitter. Bravissimo. C'è anche ovviamente la pagina Facebook che pian piano sta crescendo. Ringraziamo anche Giuseppe Saso e Simone Andreozzi e Nino Nicita che collaborano con noi al blog. di dietrologia videoludica, quindi tutta la redazione, compagnia Trick e Ballacca, arrivederci e grazie. Salutiamo e ricordatevi anche... che no, i videogiochi non sono soltanto Space Invaders. Marco? No, volevo anche salutare chi ha commentato le parte Morgan, anche Diego Fac che ci ha detto che siamo carini. Siamo decenti, siamo, diciamo. Decenti, sì, siamo, perlomeno, siamo sopportabili singolarmente, ma insieme rompiamo le palle. È vero, è vero. Singolarmente siamo simpatici. Ha scritto una cosa del genere. Va bene. Ciao Pierpaolo. Ciao, ciao Pierpaolo. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.